per sempre Tronis e te a lavorare. Sbaglio. No, stupida. Ehi, chiaro. Qua ci sono i ferraresi. Però quando è il Patronus di Ferrara? A parte che Porto Maggiore non è Ferrara. Beh, sì, è la provincia. No, è provincia del Pakistan. Cosa? Guarda, cosa? È pieno di Pakistan. Ah, sì, è cioè, tutta Ferrara. No, Porto Maggiore, specificatamente. Sì, ma anche tutte le varie frazioni. Sì, è vero, è vero. È devastante. Ti do ragione, sì. È vero. Va bene, benvenuti a Pakistan. Volevo dire. Sono un po' preoccupato. La maledizione di Porto Maggiore. I fumetti dell'imperatore, cazzo. Questa è la maledizione di Katta, episodio 25. Noi siamo Tycoons and Dragons. 25. E qua ci sono solo i migliori: Andrea Giacomo Vecchi, Giulio Bosi, Master Ego Catabriga e Pizzetti. E che non c'entra niente, invece, salutiamo a casa Francesco Arcidiacono, a casa, che però potete seguire sui social. Mi raccomando, ditemi cosa avete mangiato oggi. Ma che fastidioso adesso che è diventato quelle domande sulle storie. Madonna. Mi raccomando, le fibre. Seguitelo però, mi raccomando. Tra un addominale e l'altro vedrete che ci sono anche dei contenuti. Tra un chilo di pollo. Abbiamo postato quello che ha pranzato. Voi cosa avete mangiato? E poi ha postato le... Va bene, lo salutiamo. Salutiamo anche Edoardo Stamadini, che è andato in un paese del terzo mondo, che tutti definiscono particolarmente avanzato, ma a quanto pare dove il wifi non c'è. No, e... non c'è per giocare a Dungeon. Perché per giocare a LoL c'è. È vero. Che ironia. Va bene, ciao Edoardo Stamadini. E salutiamo anche Luca Lazzarini, che forse potremmo riavere una sessione e mezza, due sessioni di riassunto. No, infatti ha detto faccio un salto ma lo gioco, tipo ha detto mi sa una cosa del genere. Vabbè, che però potrebbe venire a prepararci qualche che però oggi finisce di lavorare all'Insight. Esatto, quindi mi raccomando, potremmo assumerlo come barman qui al bar da mezzo. Esatto. È vero. Sì, hai detto una volta, non hai detto una stronzata. Salutiamo anche mia cugina Arci, dov'è? Arci è a fare storie. È a fare storie. Segui, continui cosa hai mangiato oggi. Grazie per la considerazione. Che cosa? Sì, sono pizzette. Non hai detto una stronzata. Ma hai anche detto per una volta. Sì, sono pizzette. Ha chiesto. L'ho già fatto vedere io. Gol. Ok, puoi spegnere, mezzo. Ma quello che ti fa? C'è tutto il secondo tempo. No, non c'è, spegnimi, guarda il risultato finale e basta. Perché? Hai fatto un backup? Ha messo l'incrocio. McTominay. Ma è lunga. Comunque. Allora. Katta, chi è che fa il riassunto? Io decido. Io sto mangiando. Tutti stiamo mangiando. No. Ma abbiamo per lo più combattuto, cioè dovrebbe essere abbastanza veloce. Sì, esatto. Abbiamo combattuto e abbiamo vinto. Wow. Grazie al mio intervento finale. Sopravvissuti. Diciamo grazie al mio così. Intervento finale. Cioè sono sopravvissuti fino al mio arrivo, poi ho concluso. Cazzo, ma non sei qua adesso. Che parlo per me, piccola parentesi. Ho ricevuto... Ah sì, il grande contributo di Sheo all'ultimo combattimento. Sì, no, questo lo voglio dire a tutti. Beh, però ho ricevuto da un... Guerriero del passato, diciamo così, Kavan. Una lancia molto potente, per cui lui mi ha considerato il suo degno. Degno erede, diciamo, di questo oggetto. E qui ho ricevuto questa lancia magica che mi rende figo e potente. Prendi cazzo. No, prendi anche a te. Giusto. Nutri. Che sono deperito. Ma è vero che le ultime di Katta sono iper. Ancora stanno psichedelico. No, in realtà è altro. Ma questo non è quello che ti ho mandato. Quella è quella della volta scorsa. Adesso te l'ho mandato un'altra. Stessa merda. No, è completamente. No, vedi, c'è scritto merda nuova. Porta rispetto. Hanno annunciato l'ultima di Bojack. Non lo so, ma io non so, cioè devo iniziare. La canzone di 16 minuti. ma dovrebbe partire già avanti. Poi è partito dall'inizio. È no, partito ti ha mandato il link apposta. Ah, quindi era giusto lì. Sì. Che scaglio, cazzo. Così va bene. Più o meno dov'è. Allora. Ora. Per chi non sapesse dove rifornirsi di droga, credo che a caso di carta ci si fa di fantasia quantomeno. Cosa ultimamente è diventato strano? Ma esattamente è il trillo del diavolo, quello che suona sempre di Landorio. Ok, forse. Ma perché dopo una sessione dove abbiamo combattuto e vinto, tu come prima cosa ci metti il trillo del diavolo? Perché Strad che soffre, questo è chiaramente un però Strad ferito dell'animo, ovviamente, perché non può essere però ferito. E qui è chiaramente lui in qualche modo soffre per la perdita dell'albero malvagio. Mm. Ah, niente, eravamo sulla collina a combattere, abbiamo combattuto e abbiamo vinto. Sceo, tranne Sceo, chiamate Sceo a cazzare. Venimmo, vincemmo e... No, tra l'altro Sceo si è allontanato, un Garrosh, si è allontanato e la mia speranza c'era almeno andrà incontro a qualcosa di negativo, no? Perché tipo, boh, sei questa voce a invece no. E invece no, era ho, preso, ho ricevuto un dono. Oh, è stato premiato come io non sono mai stato premiato in tutte le mie sfughe. Zitto. Sono andato premiato per aver fatto tante sessioni consecutive. Riconosco in te il grande guerriero che fugge dalla battaglia. Tieni questa. Questa grande arma di grande guerriero. Ah, oh, bella! Che cos'è? Una bandiera bianca! Non aspetto l'arma! Bravo! Sono con te! Il, re, il degno re della mia tribù, come si chiama? La France! No, France! Vive la France! Vive la France! Esatto. E invece no. E niente, è andata esattamente così. Abbiamo sconfitto l'albero maligno. Esatto. E quindi a quel punto io ho pensato, sconfiggi l'albero da cui si generano tutti gli arbusti e muoio tra arbusti. No, no, che sciocco, sciocco. Che ironia. Invece hanno continuato a bersagliarci e sono caduto, però insomma alla fine in qualche modo ne siamo usciti. Ma fuori. Soprattutto la domanda è, l'alce è morto oppure no? L'alce secondo me, Giulio, tu dovresti avere punti per il tuo. Secondo me era caduto ma non morto. No, no, era morto. Ah, zero. Vabbè, con un po' più di delicatezza. Beh, zero, non è morto. Zero morto. Sì. Con un po' di delicatezza io devo venire. Vabbè. Va bene. Cosa è successo alla fine? Non so, ci ho fatto inculare da Strand. Beh. Senza, ha detto no, non voglio il lubrificante. Beh, ha preso un po' di terriccio e c'era. Abbiamo trovato la gemma di gemme. No? Scheletro. C'era uno scheletro dentro l'albero. Subito dopo la fine del combattimento si è palesato Strad e ha detto tu hai qualcosa di mio. Ah sì, è vero. E tu hai detto certo, il mio cuore. Ah sì, esatto, il mio cuore appartiene però... a te. No, in pratica pazza stradale. Ma dico roleplayando. Roleplay cosa? Roleplayando, scusa. Mi ha magicamente convinto a restituirgli il suo tomo. Adesso si dice così. In termini di gioco mi ha sciarmato, per cui adesso lo considero un mio grande amico e... La cosa era tipo così. Il diavolo di Futurama che ci esatto. La cosa era tipo così, Strada gli fa, mi dammi il tuo tomo, il mio tomo o ti ammazzo? E no, poi ha tirato per convincerlo. Ah, che culo, Sceo, Strada ha fatto pochissimo, tipo 5. Ah, purtroppo mi ha sciarmato, ma come hai? No, no, sciarmato! Padrone! Padrone! No, non sono suo padrone, mi ha convinto. Io sono convinto che lui sia il mio grande amico. Questo non vuol dire che se lui dice una cosa io la faccio. No, è vero questo. Significa che la faccio però, con convinzione. No, tieni la sua opinione in alta considerazione. In grande considerazione, certo. Vabbè, ma come quella di Vex, per dire. Ma non è detto che se debba aiutarlo. No, aiuto. Come è a porta. Esatto, è quello. No, non come quella di Ma quella di Vex. Ah, ok, a posto. Dammi il topo. Assolutamente no. Ma dico grande considerazione da topo. Esatto, che vuoi dire? Sì, gli ha restituito il tomo. Dovevo ucciderlo e basta. Voi siete al sesto? Sì. Sì. Andate da Eh? Prego, non volevo fare bene il riassunto. Dai, dai, si completa, dai, che non mi ricordo più. Sì, si è mangiato Stark che mi ha costretto, barra convinto, a restituirgli il tomo. E se ne è andato. Non mi sembra che abbia fatto altro. Poi dopo abbiamo trovato la gemma. Allora, cioè, tipo, è caduto l'albero e ne è uscito alla base? No, è caduto l'albero, ha cominciato a decomporsi, c'erano tipo queste fiamme nere che cominciavano a bruciarlo mentre si sgretolava. Il problema è che la scena bella che lui descrive arriva sempre quando siamo stanchi, quindi me la ricordo meglio. No, e soprattutto entra nell'ambito descrizione. No, per me è quel spam. È il momento in cui sto già pensando vado a dormire, quindi spam. Infatti, la scritta originale di quell'immagine era... non mi ricordo. Vabbè. Qualcosa sulle descrizioni. Vabbè, poi siamo noi che ce lo abbiamo ricordato. Anche per lui era di spalla. Esatto. Avevo detto che vedevate due sbrilluccichi venire fuori dalle fiamme. Sbrilluccichi, sbrilluccichi. Uno veniva dalla base dell'albero dove avevate visto tra le radici uno scheletro di un cadavere. Che aveva indosso un'armatura e brandiva un'accetta che era conficcata nel legno, probabilmente un antico avventuriero che aveva provato a fare quello che avete poi fatto voi. Scherzo. E poi un altro bagliore di colore rosso rubino venire dal centro dell'albero. Quando voi, immagino ad esempio il caro Reis che arriva nel momento di prendere il bottino. No, era 40 km di distanza e resta lì. Andate per cercare l'origine di questo bagliore ed è come se questo evaporasse nel fumo e si disperdesse nella nebbia. Hai perso il tesoro così? No, avete... liberato la, no, dico la, quello che rimane invece è l'altra parte che era l'equipaggiamento del povero malcapitato che andrò a vedere qui. Mi ha rubato il coso. Sì, era orrenda, cioè lavorosamente. Sulla riga così va. Tesoro. Ah, allora. L'armatura del avventuriero morto era un'armatura di pelle che è andata completamente rovinata dal tempo. Ma l'ascia che era conficcata. E gli strappo un braccio. Hai un omero e una. Inizia a sgranocchiarli. Inizia a sgranocchiarli. No, il radio è. Sono mezzo cane. No, il radio, certo. Non è molto saporito ormai. Posso prenderlo l'osso e lanciarlo? No, è solo per i denti. Gli lanciamo un osso, andiamo solo a prendere. Non sono il burro. Allina. Non provateci mai più. Provate ad addestrare Atana se lasciate il tesoro. E fallite miseramente. Addestrare? Dicevo, l'ascia risplende di un bagliore particolare. L'elsa è incisa con disegni di foglie e vigne. E l'arma in sé pesa la metà di quello che peserebbe un'ascia da battaglia normale. La lancia scena. Ascia mi pende. Battle axe. Credo battaglia. Sia l'ascia da battaglia. Normale. Quindi è una mano. Quindi inutile. Sì, è tipo una spada corta. La butto via. Quest'ascia la prendo io. È particolarmente efficace nel tagliare La legge. Non sembra, visto a quanto pare non è abbastanza. Evidentemente il suo portatore non era altrettanto. E la mia ascia. E la mia ascia. È carino, una volta che abbiamo scoperto tutti i nemici di legno, troviamo una cosa per il legno. Che cosa carina. Che ironia. Ironia, era conficcata dentro. Esatto. Vabbè, quello serviva. Tutte le volte che quest'ascia colpisce una pianta ordinaria o una creatura vegetale, beh, a plant creature, sì, il bersaglio prende un D8 in più di danni taglienti. Questa dovrebbe il druido dovrebbe distruggerla. Cioè. Lo vedi? A parte che se lui sarebbe tipo... No, la vorrebbe usare, e questo è il problema. Se un... ah, questo è divertente. Se una creatura di allineamento non buono brandisce l'ascia, spuntano delle spine ogni volta che dall'esso, ogni volta che l'attaccante fa un attacco con essa. Queste spine, quindi la posso usare solo io, penetrano la mano di chi la brandisce, infliggendogli un danno perforante. Vabbè, ma questo non lo sappiamo. Dopo ogni attacco. Sì. Faccelo scoprire. No, lo sappiamo. No, ma come si diverte? No, io l'avrei fatto scoprire. Lo scopri usando, immagino, il vostro riposo breve, passandolo a cercare di capire come funziona. Quindi sto già dicendo. Però va bene, poi ci vai a tentare di scoprirlo. Ah, io sono l'unico buono. Era per quello che lo voleva, bastardo. Beh, ma volevo che uno di loro, bastardi, io non uso le asce, usasse l'arma. Ma io ho appena ricevuto. Io non uso le asce. Appena ricevuto un'altra arma. Sì, per assurdo. Vedrai che Arci ti chiederà di usarla come minimo. Ma Arci non ci farà è un attimo per lui. Penso sia neutrale. Sì, beh, ci mette un attimo. Ah, ci dovresti anche dimostrarlo coi fatti. Verba vola. Lì, c'è scritto. Esatto, era una vola scritta male. E però anche cancella te, no. Devo cancellarmi il pomo di strada. Bene. Chi prende l'ascia? Vabbè, battute a parte, siamo a conoscenza di questa cosa dell'allineamento. Sì, vi ho detto. Dopo che vi riposate dopo la. Allora, vabbè, la diamo a lui. Dove li guardi? Battaglia. Vabbè, è l'unico che ha senso che la usi. Posso prendere anch'io, tanto non la uso. Vabbè, la lasciamo a lui. Cosa fa? Battle axe, io già ne avevo una, però, tra l'altro. Allora, alla fine. Potrei prenderla io. Vabbè. Ho preso anche io il medaglione super figo ammazza vampiri. Poi l'ho dato poi ti sei alleato con Strano. Beh, te c'è uno stile innovativo. Sono neutrale io. Ma poi adesso ho un'arma di più. Sì. Aspetta, fa dei danni. Solo che non lo userò. Scusami, la prima cosa che hai detto. Lo usi contro del legno. Ah, è veramente così? Sì. Contro tutti quelli che avete combattuto finora. In una, e che non troveremo mai più. Ormai abbiamo sterminato. Vabbè. Beh, è comunque un'arma magica. L'unico che ha sopravvissuto è mio amico, quindi. Trarne profitto non nel senso economico, ma nel senso di aiuto. Magari possiamo dargli a quelli della vigna in cambio di ulteriori aiuti, di soldi, cioè a quelli della vigna una roba così fa super comodo. Quale parte di è comunque un'arma magica, non hai capito? Sì, ho capito, però com'è che si chiama questa battle axe? Non ha un nome, puoi chiamarla come vuoi. Chiamala Vudax. Adesso ci penso. Ma di questo personaggio che è morto qui si trova qualche traccia di come si può chiamare? Faccio un investigate. Vai. Okay. Beh, visto che lascia le spine, Axel Rose potrebbe essere carino come nome. questa era carina. Dai, questa 20. Era carina. Questa era carina. Non puoi dir di no. Investigate, che cosa investighi? Sui resti, se trovo informazioni sul passato del tizio. Dai, Axel Rose. Axel Rose, sì, bravo. Era un umano. Si vede dal bacino. Ubalo. Si sente dal retrogusto che lascia. Nella quarantina, razza bianco caucasica, venne ucciso dai gli arbusti maligni. Quando veni ucciso non deve essere schiantato dall'albero. No, l'albero si è animato, si è animato solo adesso. Fino al vostro arrivo l'albero è sempre stato inanimato. È stato animato quando... Comodo. Sacrificio. Sì, quando abbiamo ucciso la gente. Quando è l'autostrada e... Esatto. Magica bula. Quindi prima era un semplice... un albero che partoriva... Com'è che si chiamava l'albero di... Cultias. Tirò fuori il Cultio due alla volta. Ah, grande. Hai preso quelle... No, hai preso quelle in frigo e il freezer. Freezer. Ah, prendi. Sai che intelligente... in frigo e due in freezer, ho capito bene. Sì, ma ho preso quelle in freezer, perfetto. Certo. Bene. Grazie. Andi là tra, mi chiamerai la mazza Cultias. Ma cioè, oggi che non c'è Arci, sei tu che ti sei tenuto le scarpe, cioè non... Ah, è vero. Cazzo. Sono dimenticato il cazzo. Madonna. Spengo che poi Greta si incazza. Quindi la mazza Gultias la chiami. Dai, Axl Rose, cazzo, ma per le volte che dicono Axl Rose solo perché lo detto, perché dei... perché Guns N' Roses. Ma Axl Rose perché Axl lascia Rose perché le spi... vabbè. Vabbè, quando troverai la tua ascia con le spine posso averla io, potrai chiamare come vuoi. Io quale due accette non si... per chiamarle quella. Va bene. Axl e Rose le chiamo le mie due accette, va bene? Sì, venne ucciso quando cercava di tagliare l'albero per liberare questa collina. In inglese, lo dico. Vine. Vine. A cazzo, così. Lo sai? Qua è sempre scritto Vine. Vabbè, giusto, lui lo sta leggendo da mesi più o meno. E loro si chiamano i... Vignai? Sì. I Blight. Gli arbusti maligni. No. Ah, i Martinkov. Vineyard si chiama. La vigna. Sì. Ok. No, volevo chiamarla tipo la vendicatrice della vigna. Tipo qualcosa. Vine Avenger. Vine Avenger è bruttissimo. Vine Avenger. Va bene. Bello Vine Avenger. Vine Avenger. Assemble. Cos'è? Assemble. Manager assemble. L'uscio aperto. Va bene. Salita di livello. Oh, questo lo sentivo. Beh, sì, improvvisamente. Serio? Sì, non sì, ero preparato. Vabbè, raga, brindiamo. Chiamerò Wine Angel. Raga, brindisi. Wine Angel. Angel. Angel, Angel. Era più bella che se rosa. E lo sai anche tu, maledetto. Però non ho capito cosa qui di Lightwood. Fa un D8 in più contro la le creature dei forti. Vegetali o le piante. Vuoi vedere che più forte tra noi due? No. Bezza è piena, vuota. Piena. Ma perché non è bicchiere con... E se non sei di allineamento buono quando attacchi con essa ti fa un bar. Ma io lo sono. Per ora. Per ora. In realtà un D8 ho finito la bottiglia. Versus Wood. Oh, ma un brindisi. Sei lento. Sei lento, ho forzato a tutti. La strada. La strada. Ne so che finirà che l'ultima volta Gabbana sarà Vezzo. Saliamo di livello. E finirà col tradimento di Vezzo. In realtà ci starebbe. So che solo per diventare il nuovo strada. No, questa è l'idea di Giulio. Mettiti in fila. Stacca il cartellino. Sto lavorando un sacco di tempo per questa cosa. Dog strag. Dog strag. Ma che mia mamma non pensava che avremmo finito i pizzetti. Beh, in realtà settimo. Metà l'ho mangiato io. Prendo l'incantesimo. Altra cosa che tua mamma non aveva previsto. Ero lì, l'incantesimo più in secondo. E come lo userò mai questo incantesimo? Oh, ma che dobbiamo. Molto bene, diventano tre. Ah, tiro il danno. Vado a vita. Vediamo se per una volta. Vantaggi tiri di iniziativa. Questo mi ci piace. Perfetto. Forte. Credo di aver tirato sopra la media una volta. Te lo dico, lo sto scrivendo. Inoltre, se sono sorpreso all'inizio del turno e non sono inabile, però Posso agire normalmente durante il mio primo turno, ma solo se entro in ira prima di fare qualsiasi altra cosa. Sì. Beh, scriviti il nome di quella cosa nella tua scheda. Istinto ferino, no, è che soprattutto ho vantaggio all'iniziativa. Istinto ferino. Istinto ferino. Ferino. Arci. Arcidiacono, siamo saliti di livello. Alla faccia tua. Alla faccia tua. Merda. Merda. Merda. Non devo allenare. Oh, cosa ho baggiato? Un settimo livello. Cazzo, se domani lo fai, lo scrivo. Qualcosa abbastanza per salire di livello, evidentemente. Sacred Oath Feature. Ma cosa succede? Dice che al settimo. At 7. Ok, devo guardare cosa succede. Qualcosa di vendicativo, che è perfetto. Eccolo, e infatti è Relentless Avenger. Strano? Coincidenza. Che coincidenza non credo. Al settimo livello, Supernatural Focus ti aiuta a attaccare il nemico in ritirata. Non succede nient'altro. Quando colpisci una creatura con un attacco d'opportunità, you can move up to half your speed immediately after the attack as a part of the same reaction. È carino, ma sì, è molto situazionale. Carta non me lo permetterò. Ne prendo qualcosa del Masha. Questo movimento non causa attacchi di potenza. Io tipo ho un manuale di giocatore per dire. No, da tanto non. Vai. Giusto? Sì. Su 12 prendo il 7. Sì. Ottimo. Quindi 7 più 4 mi aggiungo 11 punti ferita. Capito? Non lo dici dopo. Quindi ho sempre uno negativo, io ricordo. Ai simpaticoni del mio gruppo. Tanto non posso curare, non te lo dicevo. Però la base dei PF temporanei. Che ho ancora, tra l'altro. Sì. Che non fai riposo. Va bene. Qui diventano 35. Io il 7 mi prendo. Remarkable Athlete. No. Cos'altro mi cambia? Usava il puma. Non è particolarmente. Ti dava delle competenze in più. Ah, sì, mi aveva dato questo. Le abilità. Devo tirare. Oh, poi sono io quello lento. Comunque, no, fate con calma. Quando avete finito, no, io vorrei giocare. Ma fate voi. Io ho finito. Perché io non so dove sono andato dietro. Beh, avete fatto tutti e tre. È vero? Tutti e tre abbiamo fatto tre. Sì. Che bello. Però è 5. 6. 6. È di 10, no? 6. 6 più 2, 8. No, e quindi 6, adesso 8, io 8, quando faccio salti lungo salto bisogna. 4 piedi in più. Puoi andare ai concorsi. Anche, vale anche all'indietro? Sì, long jump. Che okay. Dice. Ma certo. peccato. E poi posso. Ma da fermo? No, mentre corro. A running long jump. C'è qualcos'altro che cambia? Mi sa che posso avere più incantesimi. E poi posso aggiungere metà del mio bonus di proficiency a ogni prova di forza, destrezza, costituzione che già non. Che non abbia già il bonus. Va bene. Meglio che niente. Non vi vedo molto entusiasti per questo nuovo livello. In realtà vorremmo salire all'otto. Potete toglierlo se settimo livello un po' non me lascia stare. Sì, sono quei livelli un po' intermediati. Però te io non mi dispiace. Ah, vabbè, per carità. Speravo di non tirare male il dado. Ma per ognuno di noi è una piccola cosina in più. Non dispiace. Ma sì, in realtà non è che abbia sicuro miglioramenti dei prossimi. Cioè, no, il prossimo c'è lo score. Lo score è quello in realtà. No, il prossimo è lo score. Ora improvvisamente la mappa sblocca nuove aree. Dove possiamo andare? Le sbloccate tutte. Quindi anche, attenzione! Non ci credo. 68. Devo 60 più 6 più 2, 68. Ah, beh, perché così 2 è meno così di 6. Di te? Ci sto. Io invece vado a 85, per il momento ne ho 84. Ma nessuno te l'ha chiesto. Sì, in realtà sì. No. Ci ho visto che è rimasto uguale, hai sentito Giulio? Grato negativo. Sì, sì, fatto il fatto che non ha partecipato al combattimento non è vero, ma basta. Ah, sì, dai. Cioè, io almeno all'inizio non partecipavo, ma poi uccidevo tutta la compagnia. Okay. La nostra. poi partecipavo, uccidevo tutti. A parte quella volta che ero lo psione, c'erano gli orchi. E io sono rimasto seduto sul cavallo. Giulio, fai qualcosa? No. Quel maledetto psione. Il mio personaggio migliore! Allora, è la croce delizia del buster. Cioè, lo psione in sé era croce, però come lo utilizzava Giulio, a volte era delizia. Perché oggettivamente creava delle situazioni difficili da pensare. Che sfruttate nel modo giusto e poi facevano impazzire io. Esatto, era una croce. Avete visto? No, la cosa più divertente fu quando, dopo poco alla fine, dall'inizio, Emma c'aveva soldati e io convinsi tutti a prendere il cadavere di Emma, non rianimarlo subito, fregati metà dei soldi. Ma filmati quelle sessioni. Sì. Con Emma che guarda la telecamera. Vuole l'amore. Pubblico da casa, avete visto? Le sessioni più belle sono appunto state quando lui non c'era, in realtà. Quelle, cavolo. Sì, perché uno poi diciamo aveva il idea, ma Eva quando lo scoprirà. Ma io soprattutto io che sapevo che gli avrei fatto schiamare. Ma io 85. Era offesissimo. Sì, barra 84 per il momento, non sì, so. Sì, 84. Ma anche 80. Ma okay. Cioè, come nivel già torniamo full. No, adesso avete finito un riposo breve, quindi ci andiamo a decidete quanti dadi spendere. Tutti torniamo perché ho cancellato. Non mi ricordo quanti siamo, però. Fai la media del dado. No, ci vuoi far fare un altro combattimento. No, no, vi ho detto che adesso. No, possiamo fare un riposo lungo adesso dove siamo. Sì, esatto. Vabbè, arriviamo alla vigna che poi riposare. La vigna è riposare, dai. Vabbè, uso. Vabbè, vediamo i dadi. Ricordiate. Eravamo più o meno tutti verso. Ricordiate. No, ma però Arce è un po' accurato. Ci vuoi far fare uno scontro? No, non vi voglio far fare uno scontro. Allora, dai, facci tornare alla vigna. Prima di tornare alla vigna. Eravamo tutti tra i 15 e i 20, tipo. Allora, che cazzo ti sei preso? Perché ci sono arrivato all'ultimo. Va bene. Sì, perché tu partivi già da male. Cronologicamente questa cosa viene dopo, prima del posto. Va bene, ci siamo curati un po' tutti e poi ci abbiamo verso la vigna. Dai, non è servizio pignolo. Si vuole. Poi tiriamo, però se ha un senso. No, non ha un senso. Allora non andiamo. Non vi preoccupate, ha detto. Prima di andare. Con Sceo che lo si è curato. E tanto Sceo è full. Arrivano. No, sì. Non è vero. Ero già messo male prima. Arrivano dal bosco anche gli altri vostri amici. Okay. Cazzo, allora serviva, combattiamo. Che erano rimasti nelle frasche perché avevano visto avvicinarsi altri barbari, altri druidi e quindi questo fuori gioco qua, clamoroso. E quindi li volevano respingere per evitare che vi arrivassero addosso. E quindi arrivano sulla collina tutti pesti e lividi. E se non ha fatto un cazzo, pesti ah. Lo pensavamo foste qua. Sì, invece. Ah, Giulio. Sì? No, perché Ray si è arrivato a 7:17. Ah, infatti è andato. Era fuori gioco. Ma scusa, si era fermato. Non era fuori gioco. Non era fuori gioco, su. Bentrovati. No, scusa, però davvero non sapevamo che era con noi. Il piano era che mentre andavate a disinfestare la zona, pattugliavano il perimetro per bloccare eventuali minacce in arrivo, ed è quello che hanno fatto. Sì, è vero. In realtà, secondo me, no, Io me lo ricordo perché anche io Race, di fatto è stato un modo per coinvolgere Race dopo. Lui eravamo già alla con leader. Sì. Sì. Infatti lui era tipo dopo. Lui era tipo a 400 piedi, ti ricordi che ha cominciato a correre verso di noi, ma non ci è arrivato perché si è nascosto e è andato ai piedi della no, collina. No, sì, la cosa era che loro erano li aveva lasciati dietro, sì, no, vabbè, ci sta, ok. E avete trovato pan per i vostri denti, sembrerebbe. Non posso dire lo stesso anche di voi, ti risponde Rictavio. È così. Ma mi fa piacere che siate ancora tutti. Ma è Brandisco in piedi. L'alce. L'alce no. Abbiamo Brandisco l'alce. Ma alla fine abbiamo estirpato il male anche da questa collina. Il destino di Strad. Destino ormai. Strad. Ah, è deciso. Spero che le cioè, tue a parole suo favore intendi o esatto. Beh, in qualche modo spero sì, che le tue parole possano avere anche se purtroppo un senso alcuni di noi non sono stati così valienti come altri. Ceo. Ma stai prendendo Axel Rose? No, io so che lui ha dato il tavolo perché ero svenuto. Non mi ricordo, può darsi. Lo interessa, no? Non parlare così male dei miei amici. Comunque, abbiamo... No, perché se avessi creato via il tovo sarei più preoccupato. Di birra e di freddo. Però puoi dirgli che è morta volenta. Mm. Che volenta? La moglie quella strana. Che ha ucciso. Sarebbe utile catturarla. Smite. Sì, sì, ma poi ho scoperto che si chiamava volenta e ho detto che lo di Berto. Ci stiamo. Scusi, sarebbe utile catturarla, ma il piacere di ucciderla. Sarebbe utile la foresta amazzonica, con tipo una tanica di benzina e un accendino. Sarebbe utile la foresta amazzonica, dategli fuoco. Beh, questo spero non abbia indispettito troppo. Salutiamo Greta. Beh, chiaramente invece sì che l'ha indispettito. Beh, però siete ancora vivi, quindi evidentemente non ci teneva più di tanto. Forse i suoi poteri, forse noi sopravviventi. Con tutte le mogli che hai, abbiamo fatto un favore. Forse è tutta un'illusione. In realtà Strad non è nulla, sì, esatto. Solo un'entità. È uno stato mentale. È tutta un'illusione, in realtà non esiste. Strad! E ti svegli sudato nel tuo letto. Esatto. Bagnato. La pillola rossa? Ma adesso non c'è tempo da perdere. Presto, torniamo alla vigna. Sì, è un'ottima idea. Abbiamo avvistato altri di questi genti selvaggi in avvicinamento. E ma anche dei druidi? Sì. No, come druidi? Della foresta. Dei druidi altri? No, non stai parlando di arci, vero? Ma no. Ne abbiamo uccisi 80, però, quanti cazzo però, di druidi però un sono? Attimo, cioè, riflettiamo. Allora, parliamo di una tribù, ne abbiamo ucciso una decina. Riflettiamo, adesso. Druidi sono tanti, Appunto, pensiamo quanti barbari e druidi abbiamo ucciso. Quanti sono quelli della fattoria? Chi uccidendo faremo meno danni? Quelli della vigna. E sono molti di meno. Li uccidi. I druidi e i barbari fanno quel cazzo che gli pare. Giulio, un po' presto, un po' tardi per prendere questa scelta. No, io pensavo che li avessimo estirpati per sempre. Cioè, 40 druidi, un boschetto di 10 alberi. Ne abbiamo ucciso una decina. No? Cioè, abbiamo tirato giù il bosco. Ora ci possiamo fare un parcheggio. Vabbè, abbiamo con la tua arcia, cementifichiamo tutto. Abbiamo ucciso lì, 40 druidi. Lì un centro commerciale. Qualcuno è contrario alla cementificazione di questa collina? Tutti i druidi. Compreso Arci. Arci, esatto. Ma no. Sì, in fondo. Io l'erba non mi è piaciuta. Beh, ci ho fatto anche una pale. E va bene. Niente contro la natura, però. Comunque sì, in questa zona vivono diverse tribù selvagge e nel caso di non farci trovare qui quando arriveranno. Questo è ok, ma pur rischio che tornino. Beh, intanto ripieghiamo la vigna. Confido nel fatto che abbiamo da assestato un buon colpo a... Ma io la sto parlando, corretta. Ah, ok. Poi di fianco c'è anche Martinkov, il guardiano. Però non abbiamo trovato la seconda gemma. Però abbiamo trovato la prima gemma. Avete trovato anche la seconda. Solo non è qui. Ma sappiamo chi ce l'ha. Tan tan tan. La strega. Quella è la terza. No, in realtà è vero, quella scusa, è la seconda. La seconda era quella che abbiamo visto scomparire l'albero. Quella è la terza. Ma prima ce l'abbiamo. Non l'ho capita però quella, cioè la, il luccichio è scomparso. E chi l'ha preso? Strad? Ma come ha fatto? Ma che camera? Era quella, la prima che venne persa. Che era il ladro però. Che è stata usata per animare il ladro. Ah, e però lui... Nel momento in cui... Praticamente lui usava la gemma per comandare da lontano l'albero. Nel momento in cui l'albero è morto, abbiamo visto la magia della gemma ritornare. No, questo non l'avevo, capito. Esatto, una spiegazione abbastanza plausibile. C'è la Strad, quindi quella è persa. Ma mi hai detto che Strad è un'illusione? Sì, è stato tentato. Beh, sappiamo chi ce l'ha e probabilmente dove la tiene. Però era meglio che non l'avesse lui. Sì, è vero. Quindi, come stavamo dicendo, risolto un mistero. Che il destino questo di Strad spiega è perché con... Strad non è più vostro cliente affezionato. Cosa? Perché tanto gli ha tolto la gemma. Farà il suo videtto. No, oppure chissà per quali scopi malvagi utilizzerà quel potere, quindi sarebbe un'ottima idea toglierlo. Ma però... si può dire che sia malvagio che fa Strad o quello che fate voi che portate alcol alla gente e in questo caso a patologie? Portate alcol alla gente senza è il consenso di Strad, unica consolazione. Inneggiamo al cannibalismo piuttosto, che è una cosa molto più sana. Quindi sì. L'unica consolazione di questa gente è l'alcol. E quindi è praticamente un popolo di alcolizzati. Sì. Non è una bella cosa. No. È il male minore, diciamo. Vabbè, questo è opinabile. Va bene, ritornate alla vineria. Sì. E, vi chiedo ovviamente com'è stata il vostro scontro durante il viaggio. Abbiamo Io gli rendo la pietra, la gemma. Gemma verde. Ne l'hanno già data prima. No, sì, mi sembra di sì. Però, sì, ne l'hanno già data. Gli dai la gemma verde. C'ho una green gem per quello. Ah, gli hai detto un falso. No, perché l'abbiamo trovata nel primo combattimento. Sì, ma è la prima volta che siamo tornati alla vigna gli abbiamo regalato. Ma va bene, gli hai dai la gemma. Gli diamo un'altra, uguale alla prima. Provatene una, se è quella bene, se non la metto. Ti ringraziano. E vi nominano a... come si dice? Cavalieri della tavola rotonda. Guardiani delle piume. C'è almeno una spilletta. Ah, guardiani delle piume. Una piuma di corvo. Un gadget. Cioè il gadget è una piuma di corvo. È una... Cazzo, siamo nella compagnia dei poracci proprio. Beh, era abbastanza ovvio. E io ho abbandonato Strad per questi poracci, cazzo. Cioè Strad aveva più di caratteristiche, poi una piuma, cioè... Strad mi ha dato una carrozza, anche se solo una legion. Senza cavalli, hanno quelli decisivi. No, c'erano qua. Bene. Arrivate, vi dicevo, alla vigna, dove trovate altre persone che prima non c'erano, tutti amici e parenti dei Martinkov. Alcuni sono lì che vi aspettano, altri vedete alcuni corvi che arrivano in volo. I corvi si posano su un trespolo, un asse del soffitto, e uno di questi scende e prende sembianza umana. Ah, è la prima volta che vediamo fare questa roba. Brando Stark. Quindi non tutti i druidi vengono per nuocere. Non sono druidi. Ah. Sono uccelli che hanno l'incantesimo di trasformarsi in uomo. Uno o più di uno? Adesso ne vedete uno. Voglio stare zitto affinché... Ma intuite che appunto il loro rapporto speciale con i corvi è più di un semplice... Feticismo. Diciamo... No, no, gli uomini dei corvi vi hanno rubato la terra! Esatto. Non è un semplice animale addestrato padrone, ma alcuni di loro sono essi stessi gli animali. Bello. Lo puoi insegnare. Quindi ovviamente quella prima che ci hanno dato, se va bene, è il pelo pubblico di qualcuno. Vi raccontano la storia della loro famiglia. Sì. E il motivo per cui appunto hanno questa legame con questa capacità. Troppo a lungo hanno giaciuto quei corvi. Non era pure. Troppo a lungo i nani hanno scavato. Però suona bene, sembrava proprio una frase di qualcosa. Adesso lo è. Dopo a lungo hanno giaciuto quei corvi ed effettivamente è vero perché... No. Cosa? Cazzo di genio! No, vabbè, adesso... Originariamente la... Sulle spalle ci e poi ridisegnico feticismo. Originariamente la vigna era nel possedimento della nobile famiglia Kretskov e negli anni appunto la... si imparentarono attraverso un matrimonio un matrimonio arrangiato con la famiglia Martinkov. Ma quei corvi? No, aspetta, e la famiglia Martinkov sono appunto dei corvi, dei corvi. Dei corvi. Okay. Superati. Ah, lo erano già prima, ok. No, era questo che ci stava. No, non si ricorda l'origine di questa maledizione persa nella leggenda, ma a un certo punto la famiglia Martinkov divenne infetta con una con la licantropia e quindi esatto sono dei corvi mannari. No, no, voglio farmi beccare. L'asso si farebbe nel segno. Beh, può direttamente copulare con loro. Basta lasciare quel corvo. Cos'è? No. Sotto le coperte. E, vi spiegano che a differenza della licantropia tradizionale hanno imparato l'arte, diciamo, di controllare le proprie istinti, le proprie emozioni durante la e poi loro istinto qual è quello di beccare i cadaveri. Tu cadavere. Oh. Beh, quello che fa Giulio? No, io non. Ma l'hai fatto prima con uno scheletro antico. Ho strappato un braccio e me lo sono sgranocchiato. L'hai assaggiato. È un cane, quindi ci sta. È la stessa cosa. Il corvo becca i cadaveri, lui mangia le ossa, è uguale. E, no, Giulio, no, non di nuovo. E vi diceva il, il modo per controllare la maledizione. Veniva insegnato. I corvi. Insegnato e tramandato di generazione in generazione. E consisteva in un complicato rituale che veniva fatto in un luogo sacro alla loro Dio famiglia corvo. Un luogo che è delimitato da quattro monoliti che raffigurano dei corvi. No, le raffigurano delle stagioni, le quattro stagioni. Come fuori dalla torre. Come fuori da. Cioè quella delle streghe. Il loro tempio era una pizza. Quello dalle streghe, no? Era così. Questa era da Lazza. Sì, esatto. È un tributo. Quello dalle streghe, ti ricordi? Esatto. Dalla quello delle streghe. Dietro al mulino delle dove streghe. Dove c'era Gabri Ponte. Potremmo aver anche messo quella canzone. Sì, è vero. Vabbè, mentre combattiamo. Sì. Adesso quel... quel terreno è stato, gli è stato tolto per via della malvagità dei nuovi occupanti. E però noi abbiamo visto dei corvi. Lì è presente un tizio okay. E ti dice ero io che cercavo di avvisarvi di non avvicinarvi perché era sì. Pericoloso. Magari le parole la prossima volta. Quelli che non sono membri dei guardiani dei corvi non capiscono i corvi. Non è per me. Darsi. Però non gli è permesso essere partecipi di questo segreto che custodiamo molto gelosamente perché sarebbe la rovina del nostro di tutto certo. Ciò che abbiamo se si venisse a sapere in giro che siete dei corvi. Esatto. Quindi Strad non lo sa, non sappiamo che cosa sa, però cerchiamo comunque di prendere tutte le precauzioni. Spero che aumentino le tasse sui mangimi dei pervolati. Mangiano anche le cose normali. Il 2% sul mangime cos'è un bene di lusso? Sui cadaveri. No, è un assorbente. Esatto, bravo. E quindi vi mettono al vostro servizio tutta la loro rete di intelligence che hanno sparsa per la valle. Che in fondo era poi quello che volevamo. Scusa, Letto. Sì. Ok, dici dove è Strad ora? E adesso? E adesso? E adesso? E adesso? Meglio se lo vedete voi quello perché serve a voi. Io, voi, voi è plurale. Bro connected. Io la mia ce l'ho. The crowd. The IT crowd. Allora, le nostre spie hanno notato un grande fermento in questi ultimi tempi, soprattutto questa notte. E sono giungono notizie da Kretsk. Non lo so, qual è la lettera della vigna? Voi siete in W, winery, in basso a sinistra. È vero, d'altra parte. Sì. Giungono notizie da Kretsk molto inquietanti. E l'altra sera abbiamo osservato un grosso fermento nella città. E è arrivato. Dove era già arrivato? Sì, era la sera in cui è arrivato Strad. Sì. Deve essere successo qualcosa di terribile, si sono sentiti. Quindi la sera in cui noi abbiamo combattuto l'albero è la stessa sera? La sera in cui voi avete... In realtà è successo questa sera, questa notte passata. Adesso è giorno, questa notte è successo il patatrac. Ok. E abbiamo visto che le porte dell'abbazia sono state sfondate da dentro. E per la città è pieno di devastazione, come se un'orda di bestie affamate avesse preso tutto ciò che riteneva commestibile e l'avesse depredato. E alcune spie che hanno cercato di origliare la situazione, capire più informazioni, hanno saputo che è sparito di nuovo il figlio del borgomastro e non si sa dove sia finito, e il borgomastro per la disperazione si è suicidato. No. Questo era tipo il mio piano. Vabbè, mi dispiace. Vuoi poi resuscitarlo dando un altro pezzo e ammazzarlo di nuovo? Tre volte il suo figlio. Si era fatto le due abitudini. No, è sparito. No, ma stavolta è morto il borgomastro. Lui è sparito. Ma è scomparso suo figlio. Sarà morto da qualche parte. Quella sera abbiamo visto uscire dalla città in subbuglio una strana creatura e umanoide, ma non abbiamo ben capito esattamente di che tipo. Come fate a stabilire che fosse strano? Perché non si muoveva in modo strano, era molto più veloce, molto più agile e forte di una normale persona. Ma forse qualcuno della famiglia dei, come si chiamano quelli di questi? Però non aveva sembianze bestiali. I Bellevue. Ma chiedo una cosa a Giulio. Tu, il figlio del borgomastro, l'hai più rivisto? Dopo che io spappolato. Non volevo dirlo davanti a tutti, però se lo dici tu, che chi tu? No, è vivo però. Cioè, l'ultima volta che. Tu l'hai visto? L'ultima volta che l'ho visto non era vivo. Ma era vivo. Tu l'hai più visto? Questo ti ho chiesto. No. Visto come mi sono svegliato in un cimitero, visto una tomba. Come sei tornato alla vita dopo che ti hanno fatto svenire, ti ha fatto le cose strane, visto come sei diventato tu apertamente che ha ucciso sì. Non volevo che lo dicessi apertamente davanti a tutti, ma l'ha fatto. C'è una possibilità che possa essere il borgomastro quello uscito dalla città in quel modo. Il figlio quanto era alto? Sì, potenzialmente come una persona normale. No, era un bambino adulto. Il borgomastro, cioè l'andatura solo era strana, era un adulto. I movimenti erano sovrumani, cioè faceva dei salti alti metri e sbatteva contro gli alberi quasi sradicandoli. E si è inoltrato urlando nella foresta. Urlando cosa? Urlando, gridando, versi culturali, non parole. Non potrebbe essere non solo la creatura fatta dal Alabate? Sì. Quale? Ce ne sono tantissime. Quella di che dovesse bere le ride. Beh, oddio. Non gli è riuscita benissimo, direi. quanto vicini ci siete passati? No, non siamo più, l'abbiamo persa nella notte, l'abbiamo vista che... da una... Avete capito in 5 gradi di metri. Parte, verso Vallacchio, esatto. Verso qua? Verso Vallacchio. Okay. Beh, allora posto. A proposito di Vallacchio, in gran parte sapete già che... Non si chiama Vallacchio, tra l'altro. Baktergrad. E sapete già bello che bastano, comunque. I Vistani si sono insediati e hanno preso il posto della guardia cittadina. E direi a giusta ragione, cioè non vedo, non capisco, cioè sei razzista e continuano è arrivato oggi a e continuano a bullizzare. Quel cibo l'ha comprato, l'ha comprato bene, prigione il mio povero figlio, ha dato soldi rubati Davian. Questo sarebbe lui a decidere. Per cui adesso il villaggio, l'insediamento degli Elfi del Crepuscolo è sguarnito, senza più, cioè, ci sono solo loro, non c'è più la popolazione di Vistani che li teneva. Però gli Elfi si erano rivoltati contro Kevin, Casimir. Quindi vanno abbattuti. Nessuna pietà. È vero che perché tu dici che lui volendo potrebbe riportarli dalla nostra. Chiaramente erano al tempo completamente soggiogati dal fatto che avevano le guardie direttamente in casa. Adesso potrebbero sentirsi abbandonati e sguarniti, e noi potremmo avere qualcosa che loro bramano. Cioè? Casimir. No. Cos'è che bramano tutti? Il vino. Basta! Vabbè, no, scherzo. Allora, digli che ha una gemma strada e che se lo comprino da strada. Sì, esatto. C'è anche vino. Posso fare e farti una domanda, scusami, su Kretzk? Sì. Le vostre spie, diciamo così, hanno visto l'abate dopo tutto quello che è successo? No. È sparito anche lui? Non abbiamo visto né entrare né uscire, quindi. Ma voi siete entrati? O avete solo visto da fuori? Manifestazioni tipo di Strad, cose così? L'abbiamo visto dove l'avete visto? No, però nel senso apparso tipo dell'atmosfera che diceva Kretzk morirà per quello che ha fatto l'abate o cose del genere. Con la visione da noi dalla fontana. Sì, esatto. Le cose del genere, gliela raccontate, sì, sono abbastanza spaventati, ma non hanno visto queste cose, però c'è da, insomma, ci sono tutti gli elementi per supporre che se tutte queste cose sono successe la sera in cui lui era lì, diciamo che è il più grande. Il fatto che lui fosse lì è stato accertato. Il fatto che lui noi sapevamo che ci doveva andare. Ma quindi il monastero è distrutto in fiamme. No, il monastero non è in fiamme perché è di pietra. Allora, è stata sfondata la porta probabilmente dalla stessa creatura che è stata vista uscire. Forse era quella lì. Cioè, sicuramente è una creatura creata dall'abate, se non l'abate stesso che si è trasformato, perché comunque è uscita dall'abbazia dopo uno di questi rituali. Cioè, provo a fare supposizioni che sia una creatura che ci sta mandando contro. Normalmente, però non l'ha mandata qua, quindi uno sa che siamo però qua. Non che potrebbe in questa direzione, no, però sa che siamo qua perché l'abbiamo incontrato due volte nel giro. Però sanno, stupido strano. Scusa, Irene è ancora là, no? Alla torre. A proposito della torre, sì. L'abbiamo pattugliata in questi giorni e abbiamo visto che c'è un branco di lupi mannari che ha una tana lì poco più in su a nord. Loro però della torre non sanno niente. E loro i corvi dici? Loro sanno che esiste quella torre. Sì, appunto. Anche perché che lei che la che la tipa della torre in realtà dovrebbero essere Rictavi. So io Rictavio lato pratico. Sì, ovviamente Rictavio con il vecchio, insomma. adatto un po' per in ordine per ricevere qualcosa, anche perché così esatto aveva le sentinelle che potevano ci fare. Può anche essere che fin dal principio ci abbiano visto, a questo punto basta che un corvo svolazzi, non ci fai caso e ti viene. Adesso ammazzano tutti i corvi. In teoria neanche voi sapete esattamente che è lì. Sia lì, visto. Non sappiamo il posto esatto, è vero. Comunque sì, loro comunque vi dicono quello che hanno osservato, ovvero che c'è questa tribù di lupi mannari che ha Tana lì vicino e hanno cominciato ad assediare la torre e hanno fatto crollare l'impalcatura laterale e poi essere venire respinti dalle difese magiche della torre. Però questo quindi, ha lasciato la struttura molto per evitare debilitata. Di non capirci. Adesso arriviamo a conoscenza del fatto che Irina è in questa torre o cercate comunque di sviare sempre? Perché no, aspetta, vediamo che cosa ci dice. Perché lui ha detto che la torre sì, è assediata dai lupi. Voi cosa rispondete? Non ho mille Irina loro. Qui sono questi lupi che stanno cercando. Riportano semplicemente quello che hanno osservato. Hanno visto questi qua che cercavano di entrare. E si sono attivate le difese magiche della torre. Tu cosa rispondi? Sicuramente i lupi si frapporranno tra noi e Vallachi, quindi bisognerà comunque sterminarli. Vabbè, provo a giocare. Ecco, totalmente il roleplay. Cosa c'è di importante in questa torre? Lo chiedo ai corvi. Era la torre di un potente mago. Non sappiamo che cosa contenga dentro e sembra però strano che siano così interessati a quello, quindi è una cosa sospetta e valeva la pena investigare. Però è difficile avvicinarsi perché hanno un fiuto. Io però so che quella torre l'hai vista bene. No, però so che è il luogo dovevamo trovarci con Rectal. Io questo lo so. Sì. Quindi chiedo a Rictal. Io lì mi nascondevo nei periodi più pericolosi ed era un ottimo nascondiglio. Hai idea di cosa ci sia adesso di importante lì per questi mannari? Forse, però bisognerebbe andare lì per scoprirlo. Ora, il mio personaggio è intelligenza 8, perciò farò in modo che non ci arrivi, però in realtà un personaggio di intelligenza media ci sarebbe arrivato. Ma sono bravo, non lo faccio. Boh, è uguale, tanto comunque è lì. E poi. Ma non è. Scusa, c'è altro, finisci. Sì, c'è altro, però. Dice. No, arrivavo già a cosa vorrei fare io adesso, ma dici, finisci. Dici, sono altre spie con altre notizie. E dicono. Continuano gli avvistamenti a nord del lago. Di questo umano che da un po' di tempo erra vagando. Quale lago? Scusa? Il lago Zarovich. Quindi altri laghi vedi. Quello è molto più grande al centro. Il lago Zarovich. Loro dicono quello. Lake Zarovich. Questo umano ha sicuramente dei poteri magici perché a volte prende la forma di un cervo che va in giro blatterando cose senza senso e scagliando fulmini a non può essere un druido che fa parte della mai visto quel tipo di magia e quel potere magico in questa valle prima d'ora. L'avete visto, diciamo, può essere cercare di colpire degli obiettivi, Come se viaggiasse in continua paranoia di essere braccato, seguito, cacciato. E quindi per lui qualsiasi cosa si avvicini a una potenziale minaccia. Come si chiama? Quello dell'Hobbit. Vabbè. Beh. No, non dico lui. Ragazzi, Bruno è semplicemente un fattone. È super paranoico. Sì, ok, però non fulmina nessuno. Neanche particolarmente. Un pochetto. Oh, sì. Cioè, nelle poche scene che si vede, ha giusta ragione, è super paranoico. Boh, si accorge delle cose sempre all'ultimo secondo utile per scappare, non è che... È vero, hai riflessi rallentati. Comunque, io direi che a questo punto andremo verso a recuperare gli elfi. Aspetta. Che possono esserci utili. Sì, però non conviene provare a capire dove si è diretta quella... quella creatura, già che comunque è di strada, provare a guardare le tracce dove possono portare. Sì, che non sappiamo che cosa, cioè è curiosa come cosa, però non abbiamo. Se è così potente non vorrei trovarmela a sbarrarci la strada. Non ho detto che è potente, ha detto che è strana. Beh, è strana e ha sfondato le porte della strada. Se ci sbarrerà la strada, l'affronteremo. Però il discorso magari troveremo anche delle tracce. Però di base io andrei verso Vallachi e siccome tanto passeremo da dalla torre, già che ci siamo, possiamo diciamo liberiamola dai lupi e poi possiamo vedere eventualmente che cosa c'è su. Però in ordine, visto che comunque passeremo da dalla torre ci dobbiamo passare. Ah beh, non passiamo per forza dalle porte di Kresk. No, da Kresk direi di starci a vizi lontani. No, era per capire quantomeno che direzione ha preso quella bestia. Ma all'incrocio possiamo vedere se vediamo delle tracce. Va bene, sì, al famoso B. E gli ultimi due sentinelle vengono invece da est rispetto a dove siete voi, e est. Una porta qua, quindi è tutto est. No, è tutto est. Una ha pattugliato gli antichi resti del castello di Arginvolst, lo so, provo a ipotizzare che è in Q, poco est. Vabbè, ho visto un edificio, l'ho indicato a caso. Est qua. Vabbè, era est. Quella ah, no, è un'arachide. Era l'antica sede dell'ordine del Drago d'Argento, che era un ordine di paladini che vegliava. Quelle che su sono cavallo. Crepate, adesso sono fantasmi. Esatto. E appunto vi dice che la da lì il 91esimo del Manchester. Bella parata, bellissimo. È una finta, voi non le capite. Cos'è? Guzza di o David Luiz? Non capisco. Guzza no, non è David Luiz. No, quello è Gwen Ponzi. Ma c'è anche David Luiz? Sì. Che ha fatto la punizione dal limite, sì, che ha causato poco prima. E vi dice che appunto una volta era un grande ordine di paladini, dopo che sono stati sconfitti la non era più un grande ordine. Il loro giuramento si è no, è continuato anche dopo la loro morte. Posso immaginare chi li ha sconfitti? Chi vuole che li abbia sconfitti? Lo sappiamo. È stato Vez. Tra l'altro appunto si chiamava Ordine del Drago d'Argento perché a capo c'era proprio un drago d'argento. Che figa. E il loro giuramento continua anche dopo la loro morte, e molti di loro girano errando per queste terre cercando insomma all'infinito di si chiamano Revenant. Ma di spiriti o sono come dire dei non morti che comunque conservano ancora una lucidità, quindi sono corporei. Sono un po' come le bestie evocate in queste terre. Nel senso che appaiono come non, no, sono proprio dei non morti. Ah, ok, non è solo un'apparenza, veri, cioè ok, al 100%. Sì, sono zombie, però lucidi. Sì, figo. Perché continuano lì, diciamo, all'infinito a cercare di portare. Ecco, il capo di questo ordine, che si chiama. No, non è Godfrey. Godfather, stavi dicendo. No. Godzilla. Goldfinger. Vladimir Horgard. Quasi. Sì. Vladimir Orgasmo. Vladimiro da praticamente a ha fatto un giuramento che finché continuerà ad esistere e farà sì che il, insomma, il, la persona da lui più odiata in, in vita continui nella morte a patire la sua condanna a rimanere in questa terra. Parliamo di, parliamo di strada. E quindi è poi la maledizione da lì? No, lui ha fatto voto che finché lui esisterà farà in modo che Strad continui ad avere la sua maledizione. Esatto. Okay. E quindi potrebbe anche essere... Tachanin non lo vuole sconfiggere, vuole che continui vuole a soffrire nell'eternità. Esatto. Quindi no, non, è, non hanno il nostro stesso obiettivo. E per in cui realtà. Bisognerebbe, potrebbe essere seriamente un ostacolo alla, alla nostra missione. Quindi bisognerebbe trovare un modo. Sono in tanti, so che è una domanda un po' sciocca. Non te lo saprei dire, okay. Non è una cosa semplice, anche perché continuano a ritornare, anche se viene sconfitto certo. Il corpo di un Revenant, certo. Dopo poco viene diventa ospite di un altro cadavere, sì. Si risorge e continua la sua. Sì. La sua quest, la sua. Non è ancora il momento di trattare con loro, penso. E no, che altro hanno altro, cioè hanno l'obiettivo quasi opposto al nostro. No, certo, quindi probabilmente arriverà il momento in cui bisognerebbe trovare un modo per essere dalla stessa parte. Però forse farli? Ancora no. Beh, allearci con dobbiamo, dobbiamo ancora avere più effettivi per essere credibili. Di apportare gli elfi della nostra potrebbe aiutarci. E l'ultima spia è quella che è stata a Beretz. Direte dov'è Beretz? Beh, ciò direbbe qui. No, beh, se è qui è in U. E in realtà nemmeno, perché Beretz non esiste più, era quella città che venne e infatti non c'è, che venne completamente sommersa quando è una U quella. Ma che cos'è la parte centrale? Le montagne. Esatto, sono mare o nelle montagne? Dove vedi che... mare? Ah, perché tu dici bianco e nero, non si capisce. No, non sono montagne. Vedi che sono esagonini definiti, sì. Queste sono le montagne. Sì. Più che... Beh, anche qui ci sono gli esagonini. Sì, è vero, hai ragione. Però magari... si vede il colore. Adesso magari ve la faccio vedere il colore. No, immaginavo fossero montagne. Però i laghi sono detto che è stata sommersa. Sì, perché il fiume che passa lì di fianco venne deviato dal potere del demonio. Fiume della e... luna. Idraulici di Barovia. Fiume della luna. Esatto. So magari ah, beh, vabbè, non importa. Aspetta, però l'acqua è azzurra. Quando la, per l'ennesima volta la, la sua diletta sfuggì dalla presa. No, non quella. No, usiamo come era. Il padre ammazzò la figlia. Ah, conosci anche tu quella storia? Ci ha già raccontata. Ma non loro. Vabbè. E comunque, se conoscete anche voi la storia, Strad deviò il fiume e allagò la città distruggendola. E quindi? Adesso è diventata la casa di Baba Lisaga. La strega. La strega. E lei è la nostra più acerrima nemica. Periodicamente cerca di distruggere la nostra casa con i suoi scagnozzi e i servitori che anima con i suoi poteri, e non mi stupirei se la pietra mancante l'avesse rubata lei. Allora, tu Rictavio cosa dici? Aspetta, la gemma mancante? Non avevamo... Erano tre. Sì, ma non avevamo detto che le avevano... Una c'era la strega, ed è questa. No, le altre streghe, io avevo capito. No, quella no, questa. Le altre, in realtà, sono le meno peggio della... Ah, ok. Allora... Ho sbagliato streghe. Diciamo che, prima cosa, andare verso Vallachi e sistemare poi con... Però aspetta. Io entro in bagno. Questa strega. È una strega. È una strega antica e potente. La sua storia è legata in qualche modo a quella di Strad. Sì. In che modo? Lei era la sua amante, la sua balia praticamente. Ah, porca troia, quindi non c'era voluto. Lo considera come se fosse suo figlio. Ma porca troia, Ma è una figlia a nostro favore. Vabbè, per gli altri è un padre, è un figlio. È un po' il figlio di tutti, strano. Vabbè, raga, cioè, sono tutti alleati con lui tranne noi. Cioè, se lo vogliamo capire, capiamolo. No. È sempre stato così, però... No, vabbè, anche vero, parte di noi è alleato con lui. Esatto. No. Esatto. In realtà no, adesso abbiamo molti più alleati rispetto a un po' di tempo fa, grazie a me. Sì. Anche grazie a me mi sono fatto molti più alleati. L'altra sponda. No, boh, direi di... recuperare gli elfi se casi di sono soddisfazione. Monza 4-1. Monza è la squadra di Silvio. Quindi batte la Juve, diciamo così. Wow. Quindi e possibili alleati gli elfi, ok. Sì, fa sto punto. Ha vinto il Parma? Clamoroso. Gli elfi. Ha vinto il Parma 3-2. E poi dopo vedremo. Però... Segui l'under cosa? No. Parma Torino in Serie A. Oggi si campa. Sì. So che a noi interessano giusto la prima. No, però il Parma potremmo andare a vedere. Cioè, fare il fenomeno che in Champions pareggi contro, non mi ricordo che quindi beh, la Juve vince tutto in Champions. Ah no, sbaglia l'ultima. Quindi è la stessa cosa che uscire al girone. Non è no. No, no, no, ma mi fa credere che sia così. Allora, Judas, gli elfi, eccetera. Vabbè, gli elfi ok, ma aspetta, gli elfi, forse possiamo vedere di farla. Gli elfi, se riesce a riappacificarsi, casi mi sono fatto capire, portandogli il vino, il trasferimento del genere, probabilmente sì. Poi chi altro abbiamo? Poi vediamo, beh, adesso andiamo lì, poi capiamo gli elfi che ci sono, li abbazziamo, così dopo lui di nuovo il capo. In realtà dobbiamo tutti convincere a non essere, a non metterci i bastoni fra le ruote, no, più no, che ad allearsi con noi. No, vabbè, adesso gli elfi no, forse. Sto posto in cui la gente può essere convinta con un po' di vino, cioè non cambia niente. Adesso vediamo. No, a parte gli elfi, dico, ci sono i non morti paladini che si mettono in mezzo e dobbiamo allora, convincere a non quelli, farlo. Vabbè, gli dai, un po', strega, gli dai un po', gli dai un po' di vino. Sono non posto. Morti! È uguale. Vino, vino non morto. Vino. Vino, un po' di vino non morto. Vino l'abbiamo ucciso nessuno, poi se sei anche non morto. Poi c'è la strega che si può mettere in mezzo e dobbiamo convincerla a non farlo. Gli dai un po' di vino. La strega non è che la puoi convincere. Sì, la strega la dai, non la puoi convincere. Appunto dico, no, cioè, si mette in dai un po' di dobbiamo... vino. Anche allora, lei, io voglio sapere se cosa ne pensa d'Orictavio e poi soprattutto Casimir. Ma in verità, noi potremmo già parlare con Strad, dargli un po' di vino e esatto. Tu ridi, ma per un attimo hai pensato che possa essere una soluzione. Potrebbe, visto come è impostata questa campagna. Non beve più. Non lo so, tipo perché adesso esatto, avendo conquistato il vino, possiamo fare. In teoria è esatto. Andiamo da Strad, subito. Abbiamo avuto un livello. Abbiamo conquistato il vino. Come osate arrivare al mio castello? Abbiamo conquistato la vigna. Ah, ok. Allora, scusate, posso, prego, prego, prego. Scusate, oh, busca, miseria, che figura di merda. Sì. Rictavio ti dice proprio di questo ti volevo parlare. Dimmi. Del vino? No, del andare da strada. No, devo dire. Pensavo del vino. Non so che cosa stia macchinando col demonio, però mi preoccupa abbastanza. È un mio amico. Il signor demonio. Ehi. Mi preoccupano abbastanza questo susseguirsi di eventi. E sappiamo che ha... A parte quelli di Kresk, quelli di Kresk proprio. Dici. Sì, anche quelli di Kresk. Però era presumibile che sarebbe successo una cosa del genere, purtroppo. Sì, ma alcuni dettagli mi sono sembrati stranamente inquietanti anche per lui. Cioè che abbia decidato un'azione così punitiva, dici? Ma magari quello semplicemente è stato una conseguenza di un effetto domino che è finito in maniera tragica. E il dettaglio che mi preoccupa è la sparizione di questo ragazzino che abbiamo ha avuto modo di capire che fosse in qualche modo collegato a quello che è successo al nostro amico. Vi chiedo quattro che zampe. Vi chiedo che... No, io no, ho mani e braccia, non ho zampe. Giulio. Buono. Buono Giulio. Ma tu ci hai detto, bravo ragazzi, no, è stato cioè, ci hai detto chiaramente tutto quello più che altro successo. A questo punto mi viene da pensare che questo ragazzino avesse effettivamente un no, però ci hai detto è stato risuscitato grazie superiore a quella sappiamo. Semplicemente di abolire sì, il Borgomastro. Quindi potrebbe essere magari diventato una sorta di adepto di strada o qualcosa del genere, o magari un tassello che di cui lui può avvalersi per fare qualcosa di cui non, ancora non abbiamo idea. Bisognerebbe trovare l'abate. Per quello che ho chiesto, l'unico che sappiamo e farmi che è stato a posto la faccia. Testimone di quello che è successo. E dici di però le branche quasi quasi me le tengo. Le branche sono poco invasive. Ma qual è la situazione adesso a Kresk? Cioè tipo la città distrutta, quindi cioè, porte aperte. Porte aperte però. Ah, di guardie praticamente non ce ne sono. Quindi effettivamente farci un salto potrebbe non essere così. Almeno avremo un'idea, cioè potremmo raccogliere degli indizi su che cosa stia macchinando. La ricostruzione qua. Quello sì, ci sta, infatti non è così lontano. Poi dopo ci dirigiamo su Vallacchia a quel punto, a meno che non abbiamo informazioni tali che ci costringano a tornare indietro. Passando per la torre. Anche perché però mi se mi ricordo bene però mi preoccupa un po' che là c'è un vostro amico. Esatto, è vero, infatti volevo chiedere anche dove? Quello prima però pensavo però poi ho pensato ma no, non ho capito c'è un nostro amico sì. Laz vabbè però c'è tu serio? O Bayern per gli amici. Sì, è vero, Bayern ormai. Allora, la Kresk ci passerei anche perché comunque è qui accanto, quindi tanto vale vedere cosa è successo. Kresk è qui accanto. No, beh, a meno che non vogliamo dividerci nuovamente, però quanto è grande questa tribù di lupi? Split the party! No, i lupi sono... Cioè, mandi veramente un lupo a cacciare dei lupi, dai, che ironia. No, ci stavo io, però, io con Rictavio e caso. La pattuglia che abbiamo visto girare intorno alla torre era almeno una decina, però nella forma e nel colore di lupo. Sì. Quindi possono essere anche lupi veramente. Sì, potrebbero essere lupi veramente, potrebbero non essere. Aspetta, 10 sono tantini per andarci in 3. Dobbiamo. Dai, andiamo a Kret. Tutte le parti, quindi. Cioè, tanto alla fine... Sì, allunghiamo un po', ma non di Casimir, Rictavio e Atito, Esmeralda. Questo sono le distanze? Sì. Casimir per forza. Pure? A Kresk, perché? Beh, vabbè, dopo andiamo a Vallacchia. Appunto, lui dice... No. Van Richten dice, possiamo fare così, voi andate a Kresk e noi vi anticipiamo alla torre. Io... Può essere. Io, Casimir... E Smeraldo ce la fate a tenere a bada. Abbiamo qualche trucchetto. E poi adesso ci aiuteranno certo. I nostri nuovi amici. Più non ho imparato dal combattimento. Smeralda fa invisibilità superiore. Stile lì. E fotte gli altri. Sì, però. Tra l'altro, se Smeralda avesse fatto quello che gli era stato detto, cioè e di ci rimanere ritroviamo... là. Ci avrebbe detto cosa è successo all'abbazia, ma... E ci ritroviamo quindi alla torre, l'obiettivo è quello? O al ponte... Sì, ci ritroviamo alla torre. Alla torre? Va bene. Va bene. Sì. Se dovesse essere brutta... Queste sono ore. Sì. Se dovesse essere brutta la situazione, aspettateci. Quindi sì. Sì. Dobbiamo aggiungere, se passiamo da Kresk, 5 ore tra andata e ritorno a piedi. Quindi una mezza giornata sì. In più. Ma sono stare un carretto così pure, per però esatto, carretto se io no, faccio il mio dovuto. Consegnare il vino. Esatto, no, c'è portare il vino. Hanno dei cavalli qui, no? Sì. Quindi il carretto come lo muovo? Sì, ma ce n'è tutto quello che gli è successo, non sono riusciti ad avere. Sei tu il cavallo, no. Porta. No, beh, volendo vabbè, uno può essere Arci. L'ho già cavalcato in precedenza, quindi. Hai un carretto trainato da un orso? No? Ah, vabbè, ci dà un serpente gigante. Ci danno un carro, un carretto, potreste portare queste, sì. Questa botte di vino a casa. Non era una battuta. così almeno confortate un pochino la popolazione. Beh, ci che sta, è stata perché noi siamo dei vessata. Mercanti, ci travestiremo da mercanti e una parte la teniamo un po', poi possiamo darla cresca e poi l'altra la teniamo per niente. Quindi quanti pensavo ci abbiamo noi? Okay. Quindi siamo noi quattro. O anche Race viene con noi. Sì, Race può venire comunque. Anche Arsi, sì, tutti. Certo. Quindi siamo noi cinque, va bene. Vai, ci ritroviamo là. Tanto andiamo al vivo insieme. Sì, e mentre andiamo, non devo gestire anche altro. E mentre andiamo io faccio il mio rituale per evocare l'alce. Sì. Ma quindi, scusa, che ore sono? Quanto si vuole da qui a Cresta? Che ore sono? Beh, voi avete fatto questa cosa la mattina. E ci mettiamo i cabini. In 3 ore si tornano avanti indietro. Pomeriggio? No, meno, il giorno dopo facciamo allora. Ah, beh, tu hai detto che la sera c'è stata la cosa di e quindi voi questa cosa ce l'hanno raccontata la mattina dopo. Adesso è la mattina sì, dopo. Però è la mattina dopo che avete combattuto sulla collina. Noi la mattina stavamo combattendo, siamo tornati, sì, sarà primo pomeriggio. Ah, allora la collina già, è allora tre orette da allora io avevo qua questa turista, adesso il secondo l'ho già fatto, ce l'ho già l'alce. Però ascolta, adesso è pomeriggio, per arrivare a Cresta ci vorrebbero 5 ore più o no, meno. Però se avete fatto il riposo lungo. Abbiamo fatto il riposo lungo, cioè queste cose qua ce l'hanno raccontata la mattina, quindi noi adesso diciamo partiamo. Oppure la sera prima, cioè di notte, oppure la notte prima. Ah, vabbè, vabbè, cioè, vabbè. Diciamo che a colazione abbiamo parlato di questo. Va bene allora. E adesso andiamo. Col carretto cosa fai di mezzi le distanze? Quindi in 3 ore e mezza. Schifo. Siamo a Cresta. Perché? Sarebbero 6. No, in 3 ore. Tre ore. In 3 ore siamo a Cresta. Quarta. Stiamo cambiando. Col carretto in 3 ore siamo a Cresta. Quarto della Manchester City. In 4 ore siamo a Cresta. 3 per giocare un campionato. 5 7? Va bene, arriviamo a Cresta. Arrivato a Cresta. Andiamo a Cresta. Mentre ho messo diceva che... No, ma c'era il discorso dei mercanti. Cioè, quindi ci vestiamo minimo, ci camuffiamo minimo. Boh, qualche. Cioè, come sono equipaggiato io, non sono un mercante. Ci facciamo. Vabbè, ci avranno qualche tipo. Vai, ci avremo anche noi da viaggiatore. Te la faccio più semplice: 2/3 di noi fanno i mercanti, le 2 possono essere le guardie dei mercanti. Vabbè, nel senso che ci mettiamo tipo dei. Oh, adesso posso. Metà del mio bonus proprio. Ci mettiamo tipo dei capucci, dei cosi. Tipo, io posso fare. Provare la destrezza. No, nel senso. Volendo. Non sarò in armatura forza, direttamente, ma magari sono fraccia forza, destrezza costituzione, se non ho già proficiency in agilità. Boh, è 1.5, non so, è 1 o 2. Però secondo me se cercano 1 o 2 di noi. No, sono beh, nel senso, tu arrivi lì col carretto, non sappiamo in quella situazione, probabilmente entra senza problemi, però posso dare. Beh, anche solo per non attirare gli sguardi una volta. Esatto, giusto, per arrivare lì che di tipo, vai che sono sull'arcio, quindi vabbè. No, non mi ricordo se è un po' danno. Chi se ne frega. Sì, vabbè, io solo sono un altro. Vabbè, lui ha le mantelle nere prese alla villa. Sì, ma della scherzavo, io sono su un alce, quindi sono già andiamo. Un alce scherzo. Io sono come un alce e di fianco a me c'è un orso che cavalca, per cui andiamo, dai. Tanto non ci sono più le guardie. Sì, esatto. Vabbè, allora, non mi ricordo che le avete uccise, no, solo le avete abbandonate al loro destino. Non abbiamo ucciso tutti noi, adesso sono cattivi. Purtroppo. Anche perché saremo a livello 10-12. Ok. Quindi più 2. Arrivate in vista della città e notate una serie di fumi che si alzano. Casa l'odore del naso. Ma perché ogni volta che noi passiamo dalla città pochi giorni dopo la situazione è questa? Che cazzo? Stavolta noi non abbiamo. Abbiamo ucciso. Io provo a entrare in città non visto. Okay. Sto per fare. Ma sei sul carro con noi, come ti nascondi dentro il casco? No, si mette sotto al carro così. Ah, ok. Ho dentro una botte di vino. Che bello. Praticamente Giulio si vede che si allontana, io lo seguo con l'altro e dice: Giulio, dove vai? Dove vai? Dove vai? Faccio 5. Faccio 5. Dai, vieni con me, dai. Faccio 5. Ok. Ah no, aspetta, vantaggio però. Perché sei un 4. Beh, non fatto 5, dove? 4, 8. Dai Giulio, bello, vieni qua. Allora, non c'è nessuno che è a guardia della porta. Peccato. Beh, in realtà tu sei a posto, Giulio, potresti essere lì su un bel più. Vabbè, ma lo facevo così tanto per testare il mio nuovo. Cioè, non è che ha un senso. Però sì, ci sta che tu giri un po'. Ma cazzo, c'è della birra sull'acqua. Ah, no. Lo spettacolo che vedete è abbastanza desolante, è come se fosse passata una mandria di bufali, no, neanche qualcosa di affamato, perché ci sono in giro dei bufali affamati. Esatto. Affamato di altri capi di bestiame, nel senso che vedete in giro bufali piume di gallina, dei maiali squartati. Giulio, per avere una città distrutta, prima cosa un branco di Giulio. Un branco di Giulio. Esatto, un branco di Giulio. No, ma domanda, guardando un po', io mi fermo. Un branco di esteri o uno solo? Un branco. Fatto. Un branco. Perché è diffusa come cosa. Dovunque c'era qualcosa che poteva essere commestibile, è stata presa. E siamo ancora più o meno all'ingresso. No, cioè, infatti dicevo, ci sarà la risata di Nelson Pardicio, eh? Infatti. Siamo più o meno. Siamo ancora. Devo fare una cosa prima di addentrarci. Siamo più o meno all'ingresso della città. Sì. Posso fare con discrezione. Vabbè, scendendo dal carro, ma con discrezione possibile, semplicemente guardare le tracce in uscita più quindi fresche. Tipo il carro sale da solo. Sì. Se ne va. Sono passate l'altro ore, se ne va. Ore l'altro però volevo faccio un tiro, sì. Dimmi tu. Sì, vai, survive. Cioè, sì, tipo, io ho davanti con l'alce, quindi il carretto, tipo, tutti ovviamente cerco questo, quelle no, non di un sono umano, io normale, tu che mi segui con l'alce che mi hanno descritto. Quindi cerco, vedi che ci sono delle tracce in entrata e in uscita, ma non sono distinguibili quelle precisamente quelle che cerchi tu. In generale vedo qualcosa di strano, uno che magari devia dalla strada, no, particolari. Seguono il percorso, quindi non ce ne sono, di anche perché poi fuori dal percorso c'è l'erba. Io entro nella casa del borgomastro. Va bene. Allora, domanda, ma quindi tipo non c'è anima via per strada? No, sono le persone e sono intente a chi ricostruire, chi proprio invece è disperato e dice... Vabbè, il sindaco chiederà lo stato di calamità. Non abbiamo il borgomastro è morto. Esatto. Ah, cazzo. Si è appeso al lampadario. Da lì. Vabbè, dove vabbè. Posso aiuto le persone magari della loro attività. Io le aiuto male. Cioè stare a perdere troppo tempo. Non accettano volentieri il tuo aiuto. Se gli incuti un po' di timore. Beh, lui sa tagliare la legna, dico così. No, vado a casa del borgomastro. Nella casa del borgomastro è... C'è la moglie? Sì, c'è la moglie. Ma cazzo non ci sta? È messa... È a lutto e... È a letto? È a lutto ed è disperata perché suo marito si è ucciso e suo figlio è... Dopo che è stato risorto per due volte, adesso è sparito. Vabbè, sono qui per porre fine alle sofferenze. Che buono, che buono. Rejoice! Dai, andiamo alla abbazia. Sì, ok, quindi ci aspettiamo. Dove? Giulio, vola. Vediamo la signora. Signora, mi perdoni. Giulio, vediamo. Andiamo bene, dai. Si ribecchi. E... Cosa fai quindi? Cominciamo. No, a io stare no, mi dispiace per la signora, però Giulio, muoviti. Vabbè, possiamo anche lasciarlo qui. No, no. L'ultima volta che l'abbiamo lasciato in questa città da solo, cosa esatto, avrà mai fatto? Andiamo. C'è un guinzaglio, ce l'ha. Ha ucciso un bambino e è tornato con la faccia da cane. Mamma mia, così. Esatto. Mi apre mi apre una casa del bergamasco. Vabbè, lo aspettiamo un attimo. Vabbè, andiamo a dare le signora lo spioncino e poi lo richiudo. Signora è impaurito. Piace per la sua perdita, però non mi stanno facendo aprire, cosa che stai parlando? Ah, no, allora pensavo su quelli dalla tizia. No, comunque dalle finestre. Allora metto la mano su Ata e dico, l'ho sofferto troppo. Non è mai troppo. Ciao, per il momento puoi accontentarti. No, andiamo. Non puoi dare fuoco alla casa con lei dentro. Non piove. No, le parole giuste sono lasciali il loro dolore. Lasciali assaporare il loro dolore. Questo posso fare. Ah, sì. Se tu gli hai gentilmente offerto. Ma io voglio vedere. Dov'è il gusto? Oh. Cioè, no, si affaccia, hai detto. No, la intravedete da fuori. Da fuori. Provo però a sniffare il ragazzo. Aspetta, cosa? Ehi. Ah, cioè, le tracce. Okay. Che botta! Provo a sniffare il ragazzo, non l'avevo. Le ceneri del buon tipo. Che botta! Siete andati a vedere Tarantino con Yak? Sì. Come è stato? Vabbè. Cioè, non il film, Yak. A parte che è stato bellissimo all'inizio, perché tipo ci sediamo, arrivano degli altri, si mettono davanti, c'era uno un po' più alto che è più Yak. Sì, quello che Arci ha pagato per sedersi lì. Sì, ecco. Salutiamo Yak ovviamente. Si è alzato e si è messo tipo un posto più in là. Allora tipo faccio tipo, dico, vabbè, Yak, cioè, se vuoi ci scambiamo. No, voglio vederlo. Dico, se vuoi ci scambiamo di posti, cioè io mi metto dietro di lui e così tu sei qua. Ah, ok, grazie. E niente, si è scambiato. Così state vicini. Quindi eravate vicini di posto. Che carino. Sì, sì, però. Ci siete tenuti per mano. Ci siamo. Cioè io ero in mezzo tra lui e Arci. Poi lui ci ha avuto sta cosa qua e quindi si era messo a un posto di distanza da me. Allora dico, vabbè, era chiaro che l'ho fatto apposta. Va bene. Ma quindi pace fatta. Sì, lo diciamo in diretta TV in esclusiva. Devi piangere, così sale l'ordine. Per ora non ci. Non c'è la Barbara d'Orso. Per ora non ci. Abbiamo un Beppe Bergomi sullo sfondo, secondo me lo stesso. Bene, tu sei nel film, ragazzo, senti che c'era il suo odore. Ci ha fatto 11. Però lo faccio con destrezza. No, sono 13. Oppure profondamente usa la costituzione. Tipo, in mezzo. No, fa con destetta, cioè prende i pezzi di terra lì, un po' come giocoliere, li passano davanti al naso. No, vabbè, ci ho provato. E, chiaramente senti la sua fragranza, ma lui non è più qui. Questo. Il suo odore viene, comincia ad essere coperto da altro. Vabbè, andiamo verso. Non c'è guardia di questa casa, neanche nel cadavere. Non fuori. Cioè, noi abbiamo usato la porta. Non sono aperto. Però. Sulla porta quindi non ci sono. Non c'è niente. Nessun... Fuori no. Ok. Poi, nelle altre vie ci sono. Mentre andiamo verso l'abbazia non ci notiamo qualcosa. Diverse persone. Tutte sconvolte dagli avvenimenti della. Ok, della mi notte. Fermo vicino a una. Cos'è successo? Sono arrivati. Senza ridere. Dall'abbazia. Tanto la faccia di cane non si vede. Hanno preso tutto quello che potevano. Posso ridere quanto voglio dentro di me. Tutte. Il nostro bestiame, tutto il nostro cibo, come faremo a sopravvivere? Poi alza lo sguardo, ti guarda. Ma lei? Oh mio Dio, sto parlando con un cane! Si spaventa e corre via. No. Un uomo non è detto che sopravviva, si rallegri! Potrebbe essere fortunato. C'è un animale più o meno a portata di quelli uccisi, non so. Ah, di quelli uccisi. Sì, c'è un maiale. Posso esaminare, cioè, senza fare chissà che cosa, vedere come è stato ucciso, se è graffiato o morto. Sbranato. Ma riconosco. Morsi di varie bestie, nel senso, quella è la tua domanda. In base alla mia conoscenza, se vuoi faccio un tiro. Posso capire se è stato un cane, se è stato qualcosa di molto più mentre grosso, lui esamina cioè, il maiale, mi avvicino. Degli animali. Sono una taglia media, sì. Taglia media. Mi avvicino. Non è un tirannosauro. Cioè come se fosse stato un branco di lupi. Mentre lui esamina, mi avvicino e faccio il verso di uno scoiattolo. Ora. Che razza di tiro deve fare un cane per fare un verso nessuno, di uno perché ha l'abilità di imitare qualsiasi suono. Oh, sì! E tu lo sprechi. E questo è solo per lo scoiattolo. Oh, sì. Ghianda, sì, questo scogliattolo mi è familiare. Vabbè, dico loro quello che vedo. E quando ti giri smetto. Un branco di lupi o qualcosa comunque di quella taglia. No, quello è un bagnale morto. Ma sembrano uccisi per fame? cioè, come dicevi tu, proprio adesso per mangiare. Anche per mangiare. Imito un'opera non per lirica. Violenza gratuita. Non c'è scritto che non posso. Posso concedere il canto di un usignolo. Che fa? Cos'è che volevi fare? Un'opera lirica. Imitare il suono di un'opera lirica. Perché? No, fai il suono del grillo quando parla, lui parla tutte le volte. Posso farlo? Sì, fatto. Sì. Grazie, grazie. Fatto. Anzi, adesso lo cerco. Bene. Ascolta. No, arrivate. Te lo dico, beh, dobbiamo andare a parlare direttamente con l'abate, dai. Com'è che è grillo in inglese? Salite cricket. Per l'abbazia. Cricket e crack, cricket e crack. Cricket e crack. E come vi dicevo, arrivate... Arrivati in cima che ci sono i portoni spalancati. Beh, no, sfondati. Sfondati dall'interno. Spalancati. Spalancati. E entrate in abbazia. Io tiro vedo fuori. Vedo qualche bel view? No. Io tiro qualche... fuori. Non ci sono bel view. Non si sa mai. Mi metto in posizione ostile. Esatto. Okay. Buon, con la lancia. Buon. Mm-hmm. Certo. Va bene. Abate! Il silenzio. No, non del tutto il silenzio. Perception. 10. 14. Senti provenire in lontananza verso il mattatoio, quindi la parte opposta rispetto all'entrata, e diversi versi disumani. Con dei toni abbastanza disperati, come se insomma fossero grida di dolore. Vado verso la macelleria. Ti ricorda qualcosa? Vabbè, ce lo dici anche a noi, ti fai i cacchi tuoi. Solo tu vado verso la macelleria. Cosa hai trovato? Bello. Indica con il muso. Dai. Affittato la pista. Vai. Cerca. Cerca. C'è qualcuno qui? E avanzate all'interno, sì. E sentite sempre più forte appunto questi lamenti disumani. Ma qui ma è uno solo o più? Tanti. Ma dove sono? Li vediamo? Il mattatoio. Sentiamo. Vabbè, andiamo sul mattatoio, cosa vediamo di così osceno? Io volevo dare. Beh, l'ultima volta che uno di noi è entrato è uscito cane. Comunque non sono solo un cane. Mezzo cane. Solo cane. Anche cane. Ah, anche le branchie, anche vero? Scusa. Un pesce cane. L'entrata è giù, no? Cioè così. Sì, quella è l'entrata. Sono entrati da qua. Ah, no, ma noi siamo andati proprio per dentro. Ah no, questo è. Quelle sono le portoni sfondate e questo. Giusto? Ah. Quello è sfondato, ma anche quello dopo. Io pensavo che noi fossimo qua mentre dicevo abate, cioè pensavo di essere entrato nel cortile e aver gridato abate! Quello è un caminetto, non è un'entrata. Ah, non è meglio ancora, da sopra. Abate! È sfondato quello e immagino anche questi. Beh, qui saremmo entrati. Sì. Anche, non vedo qui che è indicato se quindi. Questo dai. Sì, quello. Quindi sia questo che questo è tutto sfondato dall'interno. E quindi il mattatoio invece è a... È quella sta 8 stanze in alto. Ed è lì che sentiamo i grilli di giù. Esatto. Allora andiamo lì. Scarica instant button. Abbey of St. Barcovia. La porta è stata sbarrata con delle travi. Dall'interno o dall'esterno? C'è nessuno? Dall'esterno? Sì. Del mattatoio? Al mattatoio. Wide Edger! C'è scritto don't open dead inside. No, non c'è scritto niente. Busso. Io vi libero. Busso. Ma sei fuori? Perché? Senti urla. Evidentemente forse c'è un motivo. Imito le urla. Sentite giù Atanas che urla. No, bello, ma sarà di Bellevue. È proprio uguale, però. Do. Che ne so? Non lo sappiamo. Sì, non sono urla umane. Ah, sono animalesche. Disumano. Busso di nuovo, più forte. Continuano. Ma ci sono delle finestre? Sì. Ma non a questo piano. Posso uscire e andare a vedere dalle finestre, anche se sono nano? Non a questo piano. Ah, cioè al piano terra non ci sono finestre. Vabbè, ok, aspettiamo. Vabbè, posso... Ecco, di che materiale è la porta? Legno. Ci saranno delle tessurine? No, il legno, una lastra di legno. Ci faccio un buco con la... Posso arrampicarmi e salire dalle finestre sopra, del primo piano. Okay, tu ti metti lì a bucare questa porta. Una cosa in cui tu sei abbastanza esperto. Dai, arrampicati. Intanto io faccio un buco alla porta e guardo lì. Athletics. Esperto. Non ci arrivi. 10. No, abbiamo fatto 10. Non riesci a scalare. Vuoi che faccio un tiro? Anzi, aiutami a fare un buco in questa porta. Che no. È di legno. Scusa, avevo sguainato facendo vi libero. E tu hai fatto pazzo. Sfondo la porta. Tu sei fuori. Allora, apri pazienza, sei all'esterno e ti stai arrampicando. Non puoi 23. Essere anche all'interno. Ti stai ancora arrampicando. Beh, dopo ho fatto 23. No. Mentre ti arrampichi, Vez può fare qualcosina. Fermi, se vuoi, no, tira iniziativa. Allora, state facendo una cosa a testa. Beh, tu cosa fai? Io in realtà pensavo di andare a guardare intanto l'altra parte, però vedo che qui la follia ha preso il cittadino. No, le urla sono qui. No, ma perché io pensavo fosse Bellevue, però adesso mi avete fatto vedere il dubbio. Può essere. No, saranno in bocca. Ha detto che sono urla, quelli che erano umani. Chiusi. Bellevue, sì, come se lui guaisse. Però magari, tipo le belve che hanno distrutto, le hanno rinchiuse qua. Era quella la mia idea, infatti era per quello che volevo dire prima di aprire. Se le sono mangiate. Se le sono mangiate quelle. Gli animali che... Vedi, lui è indeciso, io scendo e distruggo il portone. 23. Vabbè dai, apriamolo allora. No, però mi sembra, cioè, brutto vedere, magari vedere dentro, cioè, tipo, c'è un portone di legno? Sì. Allora sì, dai, tiro una sciata per aprire uno. Devo tirare? No. Possiamo guardare la registrazione in cui 10 minuti fa lo dico. E... niente, beh, è buio. Perché come, se ci sono le finestre all'improvviso non ci sono più. No, sì, ma il perché la porta era sul corridoio e non direttamente. Sì, di fronte c'è un muro. Per terra dello schifo, vari detriti. Dai, chi è che ti vuoi aumentare la tua luce? Ma tanto mi sa che cambierà. Disse al guerriero e al barbaro. Sì, noi ci siamo già stati lì dentro solo lui. Dai, scura visione. Ah giusto, io ci vedo. Bello, però ormai ho sfondato la porta. Non hai sfondato un cazzo, 23. Guarda. No, ho fatto 23 a sfondare la porta. Atanas ti dice, sì adesso guardo io. E la tira giù. Con proprio calcio. Aperta. Sì. E quindi cosa c'è dentro? Cosa vedi? Davanti a voi c'è... cosa vedo? C'è un corridoio che arriva contro un muro di fronte, 15 piedi di fronte a voi e poi... C'è un corridoio, un muro. Eh no, è perché qua. E poi curva a destra e da lì vengono. Vabbè, allora entriamo. Da davanti dai, vengono. Entriamo, basta, la morte. Sentiamo anche il rumore di catene. Sì. Faccio uno stealth. Fai uno stealth. Di gruppo. Sì, hai ragione. Stavolta do ragione. Bam! 22. Di gruppo. Direi che va bene il suo. Dove? Non è 20. Ho svantaggio con l'arma. Dove? Uguale, 20 e 22, perfetto, bravo. Dai, di gruppo 20. Io passo la media, ma 2 su 3. Vabbè, vai in fondo alla colonna, chi sta davanti? Metà, basta che metà lo passi, lo sai di. Vai tu. Ricordati che cosa fai? Avanzo, fatto quarto, cerco di guardare in giro. Ok. Tenendo conto che ho scuro visione 60 metri. Uh-huh. No, 60 piedi. Perfetto. Che diventa 60 metri. Abbiamo aperto la porta, adesso ci troppo della luce, no? Tre volte che parli Google ti ascolta. È una rottura di cazzo. Sai che anche me un sacco di volte. Dicevo, con la sua voce. Sono la mia. Perché? Anche a me con quella degli altri, non so perché. Dicevo, abbiamo aperto la porta. Google. La luce entra. La luce entra. Abbiamo sfondato la porta. Sì, in questi 15 sì, piedi. Capito, qui non sarà completamente buio pesto. Sono 10 piedi, quindi 30 piedi di fronte a voi. Sì, però intendo, non è che qui è completamente buio. No, certo, ma c'è un muro di fronte. Vabbè, siamo capiti. Cioè, se tu apri una porta qui, comunque la luce un po' filtra, non è completamente buio. Non andiamo alla cieca totalmente. Ok, ma finché non ci arrivi, non vedi che cosa c'è. Tu no, certo. È davanti alla colonna. Certo. Ok, quindi tu avanzi e butti un occhio. Là. E innanzitutto, mentre come muovete i primi passi all'interno, venite assaliti da questo tanfo irrespirabile. Tipo è ovunque, presto! Tipo stalla con odore di decomposizione. Giulio! Non sono stato io. È lui il primo del gruppo, scorreggiato lui, fisso. Cattivo! Chi fa le scorreggie è proprio il gruppo. Vabbè, siamo solito a farlo passeggiare. Ti ammazzo, insomma, più avanzate, più distinguete meglio i rumori. E poi ti mangio la faccia. Oltre alle grida di dolore di queste creature, che ovviamente desumete essere i Bellevue, e sentite anche i grugniti di una grossa creatura umanoide che li sta percuotendo. E quindi praticamente, se questa scena è come se ci fosse questa pollaio dove al posto di polli avete questi umanoidi mostruosi che sono incatenati ai loro guinzagli che si dimenano e girano in giro, e questo umanoide che dove prende percuote lo vediamo già l'umanoide o però lui è il primo sbircia e lo vede. Non mi ricordo se l'avevi visto anche quando sei entrato l'ultima volta. Ma gli abbiamo fatto vedere, non l'avevi descritto particolarmente. Io vi faccio il segno che è tutto a posto, potete tranquillamente andare avanti. Beh, i rumori li sentiamo anche noi. Sì, ho capito, però vi dico che vi faccio il segno che il corridoio è libero. Bene, avanza. Vabbè, li vedremo adesso. Sì, li vedete. Oh. Chi sono? C'è decine di Bellevue. Ah, Bellevue. Che vengono percossi da questa creatura che è, poche parole, un golem di carne grosso, muscoloso e brutto. Possiamo andarcene. Non siamo Studiamolo. Qui. Ma perché? Liberiamo i poveri belgi. Poveri, sono delle bestie anche loro, disumane. Questo razzismo, bitch. No, nel senso che... Cioè, sei indelicato. Sento peso. Come i genitori che litigano non davanti ai bambini. Vabbè, no, scherzi a parte, ovviamente sì. Indelicato. Se riusciamo proviamo a coglierlo di sorpresa, attaccandolo da dietro. Allora, lui non ci ha visto per ora. Lui è impegnato a percuotere come se fosse un automa che esegue un compito. Però ci sono varie celle, no? Fatto lo è. Ci sono varie celle e dentro le celle ci sono vari animali che sono... Sta facendo un ordine... No, lui dove prende. Cioè, ci sono tutti questi animali che corrono, si ribaltano, urlano e strepitano. Beh, però ci sono le varie celle, sono legate ai guinzagli, hai detto, no? Sì, alcuni all'interno, altri scorrazzano nel corridoio, perché tutti non ci stanno. Perché sono stati rinchiusi qua dentro. Liberarne alcuni non ha senso, dobbiamo combattere le basta. Proviamo a coglierlo di sorpresa finché è occupato a picchiare. Un golem di carne. Cosa ci fa qui un golem di carne? Beh, che noi sappiamo, i golem sono fammi tirare un obbligati a eseguire un compito, il suo a quanto pare è per quattro di questi poveri Bellevue. Sarà il guardiano che messo anche l'abate, che l'abate ha fatto per i Bellevue. Esatto. Sì, quindi però che li percuote a ripetizione. Potete fare quello che volete, ma già di creazioni del povero abate ne avete. Però perché adesso li hai chiusi tutti qua? Cioè, forse è un ordine di perché strada. No, ma lui teneva. È successo ieri sera? Strad è arrivato e ha aperto il culo. Forse qualcuno delle sue bestie sono scappate, hanno fatto la devastazione e ha punito le altre. Tu hai rinchiuso le stesse che hanno fatto casino e le ha punite. Cioè tutte. Sì. Ah, perché sono stati loro. Sì. I Bellevue hanno devastato la città. Intuite che è successo qualcosa per cui sono impazziti, i cancelli sono stati aperti. E si sono riversati in città, hanno saccheggiato tutto quello che poi è stato Strad perché c'era lui, oppure la batte, ma non avrebbe senso, oppure qui che Giulio, esatto, il borgomastro, ma non avrebbe senso che faccia devastare la sua città. Chi è che avete sentito che è scappato? Il figlio del bambino. No, il bambino. la bestia che è scappata. Ecco, la bestia riscappando ha aperto tutto e quindi li ha liberati tutti. Sì, però che bestia. Puoi capire che bestia era, esatto. La creazione irinica. Vabbè, adesso cerchiamo sto cazzo. Non può essere la sosia di Irina che diventa. Ha detto che saltava. La cosa più strana del mondo. Comunque sì. Però in teoria alcuni Bellevue sono capaci di esprimersi in concetti. Era quello che infatti mi chiedevo. Se tu apri le porte automaticamente, almeno non ci davano questa idea, che automaticamente diventano delle bestie fuori controllo. Quindi magari se ne recuperiamo qualcuno. Cioè, che quando noi arriviamo la prima volta all'abbazia c'erano due Bellevue a fare la guardia. Sì. Quindi, però ne avete visti anche altri invece in condizioni. Ho capito, sì, però se tu apri le porte non è che automaticamente tutti impazziscono e devastano la città. Però la maggior parte, dato che venivano tenuti qua... Sì, la maggior parte erano legati, in effetti, ne avevamo visti solo due. Il mio punto era di cercare qualcuno da interrogare. Ma qui sembrano tutti... No, cerchiamo la parte, torniamo indietro. Ok. Andiamo a vedere l'altra parte. Richiudiamo la porta. Sono sfondata. Ah. Ok, va bene. E dall'altra parte c'è la S13 che è il come si dice? Base. No, c'è un tavolo. Biblioteca. Cosa è scritto? Dov'era il posto dove mi ha fatto l'operazione? È il mattatoio al piano di sopra. Per andare al piano di sopra? C'è la scala. È vero, non siamo obbligati ad andare. È vero, potevamo provare ad andare anche sopra. Di solito la batte dov'è però? Di solito è nell'edificio all'inizio. E qui è lì. No, per andare al piano di sopra, sì, sì. Cioè non bisogna passare dalle celle. No, no, vedi che c'è la scala. Però ha ragione, cerchiamo la batte prima. Vabbè, se vuoi te andiamo a vedere sopra. No, prima cerchiamo la batte. Se non c'è la batte, allora. Ma io voglio andare al primo piano di sopra. Vabbè, noi andiamo a cercare la batte. Andarci dopo. Io te andiamo a cercare la batte. Andiamo tutti insieme. Vabbè dai, voi andate alla batte e vado al piano di sopra. Vuoi andare al piano di sopra per forza? È una cosa mia, cioè è stato modificato il piano di sopra. Ci ha affezionato. Vediamo che cazzo c'è al piano di sopra. Cioè, tre golem di cane. Vi dico anche che ci stanno aspettando. Vi raggiungo subito, andate pure. No, andiamo insieme. Dividiamoci. Cioè, fino a due giorni fa non mi volevi vedere, adesso. No, adesso ti voglio tenere a guardia. Al guinzaglio, vai, sì, c'è il guinzaglio. Allora, il piano superiore, quindi S20. Dai. Bravo, cucciolone. Alzati, vai a prendere una bottiglia. Dai. Pezzi, mi raccomando. Poche provi. Scherzo, dai. Allora, ma di che razza sei? È uno sciaccato. Sali le scale. Sei anche calmo, hai 20 anni che mi prendi per il culo per due battute. È vero, stai anche calmo. Per malosino. Beh, lo sapevamo. E sali le scale, ti trovi. Lo sapevamo. Trovi alla tua sinistra la porta che conduce agli spalti e alla destra c'è questo vecchio ufficio, c'è una scrivania, al di là della scrivania c'è la porta che ti porta ai locali dentro e per il resto il legno di questa stanza è tutto marcio e invecchiato e ci sono appesi alle pareti c'è un appendiabiti ammuffito con delle vecchie cappe, vecchi camici. A posto, prosegui. Sinistra, destra o torni dietro? Sinistra. Non ce l'hai pure la mappa lì. Però è. Sì, c'è solo il piano di sotto, Giulio, sai perché? Perché non però serve un cazzo! Non serve a niente! Mi sono scordato di darvi il piano di sopra. Che non è qua. Forse è qui. Però di darlo. Mm-hmm. andiamo a cercare la batte. Adesso facciamo finire due sul giretto, quindi... Però te ne cerchi un po', eh. Oh, adesso sì, eh. Sì, siamo sempre qua. Sì. Cerco la stanza in cui mi ha fatto l'operazione. Ok, quindi entri nell'ospedale. Mm-hmm. E davanti a te c'è una serie di letti. E, vabbè, visto che io lo vedo così convinto, gli chiedo cosa stai cercando. La stanza, l'ultima stanza in cui sono stato. Mm. Ci sono in questa stanza alla tua destra, mi ricordo di essere stato. Pensi che ci possa aiutare? Tre porte. Mm-hmm. Okay. Che mi dicesse. Possiamo andare io e te. Beh. Ci sono tre porte nel muro a sud e qui spaziate tra di loro e ognuna ha un cartello, una placca sopra la porta. E la prima c'è scritto sala operatoria, la seconda nursery e la terza è il obitorio. Sala operatoria, se non ricordo il nome. Ok, tu ti dirigi verso la sala operatoria. Voi due cosa fate? Lo seguiamo. Cioè lui lo segue. Ok. Siamo qua. Vedete anche voi cosa facevo. No, non sapete. Non ci sarà nessuno. Capito? Cioè, non è che cioè, ci vuole chissà cosa. Va bene. Entrate in questa stanza e vi avvicinate alla porta della sala operatoria. Quando ad un tratto dalle pareti escono sei ombre. Dalle ombre, cazzo, giù ci ha trovato lo sconto. Tirate l'iniziativa. Siamo qua comunque. Ok, no, siamo fuori forse perché ci avviciniamo alla porta. Allora siamo ancora dentro la sala operatoria. Siamo nella stanza con tutti i letti. Siamo ancora all'ospedale. Cioè, siamo 10! Vantaggio. Vabbè, 14-15 vado. 20. 17. Quanto hai fatto tu? Ah, giocate, dai. Quanto hai fatto tu? 10. Yes. Avevo un tiro alto. In realtà è esatto, è buono. Ma quanto hai più? Ah, ok. Bravo, più. Dove sono qua? Dove sto bevendo? Tennis. Si chiama tennis, appunto. Saranno la lettera S? Non avete completato la lo scopriremo la prossima. C'è anche io. È nuova. Shadow. Sì. Ce l'avevi, ovviamente. No, ho controllato, stamattina c'era in armadio. Ovviamente quando spunta un'ombra l'unica reazione è The Shadow. The Shadow. Ok, direi che va dietro di me? Sì, che dietro. Sì. Okay. Puoi ritardare dopo di loro se non te la senti. Attacco la prima. Che mi capita sotto tiro. Spero che si possa attaccare dopo il dente. Con. Beh, magari puoi usare un'arma magica. Con 20? Sì. Perché spadone è più. Sono 14 danni. Ok. Anche perché è magico, non ha più uno, mi sa. Il danno che gli infliggi è a tuo dito. Non più uno comunque. Però è un'arma magica. Sì. Il secondo attacco è di nuovo 20. Colpisce. Sì, non importa che sia più uno, basta che sia un'arma magica. 12 danni. Contro di loro, sì. È comunque un'arma magica, quindi la resistenza funziona. In realtà abbiamo già scontrato le ombre. Le ombre hanno l'esistenza? Sì. Cazzo, voglio usarla. Mi dispiace. Con altri 12 danni? Sì, a 12 così, va bene, mi dispiace molto. Una comunque l'ho segata. Okay. Vado su un'altra. Ah, oh, cazzo. 22. Bravo, mi piace. Perché se la usa due mani è 10. Bravo, mi piace. 8. Funziona così con tutte le armi. No, quelle che hanno versato. Quello lo è. È per questo che ho. Sì, credo sia come la longsword. Infatti fa di 8 e poi c'è la paralisi di 10. Allora sì, ci sta, va bene, bravo, mi piace. E poi perché posso usare i miei tricks di... Okay. Io ho segato un'ombra. Quindi mi ferito una. Potrei usarla. Ho lo spazio per caricare. Dai. No! Dai! E io corro sulla parete. Vai, corri sulla parete. Io posso correre sulla l'arce. Parete per c'è fare cosa? Abbastanza per caricarne una. No. Non c'è lo spazio. Bene, attacco normalmente. Con quanto li hai colpiti? Ho fatto sempre 20. Perché tiri un D12 se ti sei tirato basso? No, perché uso il attacco in counter. Non so, ho fatto 20-20-22. Proprio in quanto incauto dovresti porti il problema. Posso fare una domanda stupida? Vabbè, innanzitutto quanto no. Dura le ture di Sceo? No, vabbè. Non so, il mio è finito da minuti ormai. Mi dispiace. Sì. Ah, sono di Sceo. Più belle. 13 più 1, vabbè, 21. Sì, sì. Vai, Sceo, bravo. Quello è lui. 12. Sì. Morto. Sì. C'è l'altro attacco. Sì, sulla stessa. Aspetta. La stessa è morta. Aggiungimi 5 PF temporanei. Ah no, 2 di. Cosa? Aggiungimi 8 PF temporanei. Oh, è così. Sulle ombre non funziona. Perché? Perché non c'è vita da succhiare. Ah, va bene. Sta bene. Concedo. 18. Colpito. Questo però è un po' la tua rilettura. Sì. 10. Se ne basta, quasi quel cazzo che mi esatto. 10 togliere il potere di Sceo. Sta bene. Pazzesco. L'avresti mai detto? Prima dei nemici. E questo è un 23. So, tu non hai anche una sorta tipo di scacciare, intimorire? No, non ce l'ha. Un paladino non ce l'ha? Un paladino ce l'ha, lui no. Ah, lui che perché dovrei scacciarlo? No, posso uscire. Perché sarebbe stato più veloce. Zitto, giuro. Hai voluto questo sarebbe stato più veloce non venirli a cercare. Però va bene. Ragione, però. Non c'erano le ombre l'altra volta. Ha un po' ragione. L'altra volta non c'erano le ombre, se ne so. Okay. Aia, sono solo 7 danni. Mm-hmm. Che usi la tua nuova. Sì, esatto. Muore. Allora faccio un altro colpo. E sono 19 per colpire. Colpito. Uno si ritira. 10 più 4, 14. Tiro le 13. 14. Ok, sta male, ma è ancora non in piedi, però. Do come? 7 le ho balzata 1 e 14 le ho giocata una zona ferita. Però se vuoi te le faccio attaccare l'altra. No, ma non l'ho capito un cazzo allora. Posto. Va bene. Quante sono? Ne rimangono 3. Tocca loro. Allora, prima su Atanas. Con un loro fortissimo. 12 per colpire. La seconda su Garrosh. Ho fatto l'attacco in caut. Tra l'altro mi sa che tu mi hai usato tutte le frecce. Che delusione. Mi spiace. Ah, è vero, le tue frecce. 15 ti colpisce? Nah. O ce l'avevano magari delle frecce dei... delle ombre. No. Vabbè, dai, ci avrebbero potuto dare i cori. Gli amanti dei corvi. I Martinko vanno delle frecce. Quindi sono di nuovo a 10. Non posso fare più di 10. E ti arriva una. Ti accontenti di poco, però? Gli mancano. Perché? Che tristezza. 10 frecce. No, vabbè, devono fare le 3. Atanas, no, Atanas. Sì, Atanas. Sì. Ma oggi è facile fare le 3 e vieni. Vabbè, attacco quella già ferita da Vez. 20 boh, tanto. E sono 10 danni. Poi attacco un'altra. E sono con uno 23, con l'altro 22. E sono 11, 12, 16 danni. Ok. Garrosh. Attacco quello che rimane. Se ne mancano uno e mezzo, ne mancano. Sì. 21 e sono 12. La seconda faccio cazzo, 11. Mancato. Porca troia. Ci sei riuscito. Ma che indovinare 12. Sì. Va. Tata, l'unico tiro quindi che a parte il fumble. 16. C'è l'unica persona che ha mancato. Ho fatto 8 danni. Okay. E poi facciamo il secondo attacco. Critico, 20. Vabbè, è morto. No, fatelo tirare. L'hai fatto purtroppo un momento più inutile. Avrà magari se fai tutti uno sopravvive, tanto li ritiro. Li ritiro. Quindi sono 14 più 4, 18. Beh, in uno c'era. Lasciate, in 18. Fare, non lo faccio mai. Che dico? Ok, le loro, queste ombre si dileguano, cioè spariscono dalla stanza. Chiedo ai miei amici a cosa servono le ombre. No, come funzionano? Funzionano tipo i golem che sono comandati direttamente da qualcuno. Ah, ok, perché? No. Chiese al guerriero. Sì, vabbè, sto chiedendo a lui. No, in realtà no, sono un'altra roba, qua è più probabilmente sono luoghi un po' più oscuri, probabilmente sono dei ricordi di spiriti che infestavano. Esatto. Okay. Anche se sono emerse adesso, perché non c'erano finché la bate era qua. Anzi, forse questa è una parola che la bate non è più così. Non c'erano prima. Forse perché quando passa la bate se ne stanno nascoste. Questa rosa di fatto che quando una batte non c'è le ombre va bene. Vuoi cercare qualcos'altro qui? Voglio entrare non siamo ancora entrati nella stanza dove l'hanno fatto affetto, quindi andiamo dai. Entra la stanza. A questo punto sono curioso anch'io, entriamoci. Ormai mi ha creato un hype che apri la porta ed è fronte a te c'è questo tavolo operatorio. È pieno di golem. Di macchie di sangue. È il mio sangue? Prova di. Ho il fatto. Ho il fatto. Come fai? Beh, fa così. Catta. E poi catta. Allora, ti fa tirare e poi dai una risposta. Vabbè, cioè, nel senso, Sì, è il tuo. Beh, ci sono diversi tipi di sangue, immagino. Mescolato. Rega, se lo perdere 3 ore su storia. Oh, grazie. Dai, bravo, Giulio. 16. Riconosce tutti i tipi di sangue. Ti metti a esaminare il tavolo per non dire sniffare. Oh, sniffando sangue. Che botta! In una sala operatoria. Che botta! Quando lo fai, un urlo riempie la stanza. Comunque, cioè, un cane, se gli fai annusare il sangue di una persona, riconosce poi una persona. E lui lo fa continuamente con i suoi cani. Beh, come fare a annusare un abito ferito. Indossato alla persona? Quello, vedi, l'abbiamo ferito, ora dobbiamo inseguire. Sangue è stato. Sangue, sicuro di questa cosa? No. Non è come sparato. Non è come le impronte digitali, il sangue è sangue, l'odore è lo stesso. No, cioè, magari puoi ricordare se sia umano o animale al massimo. Vabbè, però cioè, sangue di maiale vale per tutti i maiali. Se fanno il tavolo succede qualcosa di no, è come dire sudore per tutte le persone. No, però lì sono i ferobori. Sentite questo urlo che riecheggia nel tempo, come se fosse l'eco di tutti quelli che hanno. No, aspetta, stavo sniffando il sangue. Questo è l'effetto. Hai fatto un bel casino. Sniffa il sangue. Se urlo che era proprio quello. Come se sniffate il tavolo, succede questo. Cioè, ma lo sento io che sniffo il sangue? Si sente? Senti i presenti nella stanza lo sentono. E seguito da altri tutti gli urli le urla di dolore di quelli che sono morti e che hanno sofferto sotto il bisturi. Quindi sente anche il suo stesso urlo. Sì, sente anche il suo stesso urlo. Un bel posticino che abbiamo trovato. E, man mano le urla si affievoliscono finché non sono niente che memorie. Allora io prendo fuori che botta prendo fuori il mio simbolo sacro, lo alzo e ti faccio fare anche il roleplay. Posso usare un inspiration per dettare la stanza in teoria, per tipo, perché li voglio dire tipo andate liberi. Siete del cioè in pace. Salute. Riposate in pace. Certo, puoi provare a farlo. Ti ricordo che da Barovia nessuna anima può andare via, può liberarsi. Beh, ci provo. Però sì, tranquillamente ci puoi provare. Mentre lo fai, sì. Un urlo ancora più grande. Il tuo amico Atanas diventa catatonico. Bella sta cosa. Lui l'ho liberato però. Top. Pare che ora ce la portiamo a portare in giro senza problemi. Come ad essere in preda alle convulsioni. Utile. Fantastico. Che cazzo ha sniffato questo? Non so cosa c'era sul tavolo, pensavo fosse sangue. Pensavo fosse sangue. Roba buona. Una trasmissione di real time. Stavo. Comincia ad essere preso da queste visioni agghiaccianti. Vedi te stesso mentre vieni sezionato su quello stesso tavolo, e nel frattempo queste immagini cominciano a diventare altre immagini in cui vedi sempre te stesso diversi anni fa, come non ti eri mai visto, avevi un aspetto più, come dire, nobile, più leggiadro e dai fini lineamenti, e non eri pieno di cicatrici. No, quello che lo si ricorda. Esatto. E, so che degrado giù. Ti vengono dei flashback come di un rituale, come di una operazione, anche questo, sempre un'operazione chirurgica. No, aspetta, ti vengono rimosse delle parti del corpo. Così come ho tolto, ho fatto in modo che non si irida, non diventasse. Adesso sistemo anche giù. No! E nel frattempo. Non so che fare come. Queste immagini vengono sovrapposte a quelle di un'altra visione assolutamente parallela a questa, con gli stessi elementi, ma non vedi più, anzi al contrario, vedi attraverso i tuoi occhi, ma i tuoi occhi non sono sulla tua testa adesso. Ah, interessante, sono il bambino merda. Esatto. I miei occhi, ridammi i miei occhi. Vai, e nel momento di terminare questa cosa gli faccio un cazzo. Penso io, medici. Cosa? Smite. No, provo a effettivamente noi vediamo uno che ha le convulsioni. No, non ho capito cosa hai detto. Medicine. Medicine, avevo capito banishing. Banishing. Che cazzo è? No, medicine ci sta. Sì, io guardo il mio amico, devo fargli la respirazione bocca a bocca. No! Dice, è una parte complicato, ragazzi. Bocca a muso. Con la parata canino. 17, ok. Come si fa il bocca a bocca? Giocavano Pompei. Cosa per evitare che si strozzi con la sua stessa lingua. E, ti mordo la mano e, un po' sì, per forza di cose, e un po' vedi che si calma. Tu appunto nel frattempo la tua visione vede attraverso i tuoi vecchi occhi, e ti dicevo era parallela a quella precedente a questo rituale, a questa operazione di cui avevi perso la memoria. E le ultime cose che vedi prima di risvegliarti sono un libro, il cellulare sotto proprio. Vabbè, che è waterproof, ma forse non beerproof. Beerproof non lo sappiamo. Dovrebbe un libro, il simbolo sacro che vi donò la Vacter. Ah, ok, sì, sei tornato. Non è quello per cui sei tornato. Sì, sì, sì. Il medaglione. Sì. In mezzo a questi due, la tua bambola. Ok. E illuminati da una fortissima luce rossa che viene dall'alto. Questi tre elementi vengono oscurati dall'ombra di una persona. La testa del tipo guarda in basso, ci sono queste tre cose per terra. Ma io vedo attraverso gli occhi. I suoi occhi. Okay. Arriva quest'ombra di una persona che copre questi tre oggetti. Il tipo alza la testa. No. Gli ride. Cazzo. Ormai sta bene con tutto. Byron. Beh. E ti ride. Quindi Bayer copre gli oggetti. Però sono gli oggetti, quindi è al castello di strada. Ok, questa cosa so solo io. Sì, infatti. Ti risvegli e ci sono i tuoi amici preoccupati che, oddio, non so se... che sta ancora tenendo la lingua. Affa. Io che sono tipo così per dargli un pugno sul petto per farlo riprendere. Anzi, col martello da guerra pronto. Ti ci penso io. Katalos, cosa è successo? Affa. Ora capisco. Vabbè, il tolgo sto lì. Sei stato un bravo segugio. No, niente, ho avuto una visione. Che è chiaro, no? Una visione di cosa? Dell'operazione che ho avuto io. Di un'altra operazione che ho avuto io che non mi ricordo, che non ricordavo aver avuto. Bello. Un'assicurazione sanitaria? No? Non ne fanno ancora. E poi ho visto una cosa un strana. Nuovo business da avviare. Poi ho visto una cosa strana. Una cosa strana. Sì, dici. Cioè, ho visto attraverso i miei occhi. Vabbè, ok. Fa un po' ridere. Tutti vediamo attraverso i nostri occhi. No, i miei occhi. I tuoi originali? I miei veri occhi, sì. E chi possiede ora i tuoi occhi? Quindi un bambino di merda. Il figlio del borgomastro? Sì. Questo lo sappiamo, sì. E dov'era? Che ha subito l'operazione per... sì. Hai visto dove fosse? Beh, non esattamente. Però posso immaginarlo, diciamo. E dove immagini che sia? Al castello di Strand, direi. Ah. Come fai a dirlo? Probabilmente ora è sotto il suo... Beh, perché i miei occhi guardavano degli oggetti che non sono stati dati a Strad. Che oggetti? Gli oggetti erano a parte... La valvola, il simbolo e... Il simbolo che gli hai dato. Sì. E niente, c'era un libro... Ce l'aveva Byrne. Ah... Cosa? Il simbolo sacro. Ah, simbolo, sì. Il libro? Che libro? Il libro, libro quello di Sceo. Il sì. Libro è il tomo. Il tomo. Lo riconosco che era quello. No, aspetta, cos'è tu che dici? Tu l'avevi visto? Sì. Beh sì, quando glielo ho anche dato. Anche quando dato. Quindi cos'è che dici? Il libro che Garrosh ha dato a Strad. E quando sarebbe successo questa cosa? Beh, tu in realtà in quel momento sei stato rimasto là. Ma lo Sharo come funziona? Io sono ancora convinto che sia un amico. Quel poveretto io. Ci devo riguardare, no. Non so che. Non è specifico. Cioè, è scelta tua, in scusa, realtà. Tu conosci anche tu bene l'incantesimo. Lo charm come funziona? Cioè, secondo te sono ancora amico di. Penso no, di essere. No, in effetto è una durata. Ma non è un incantesimo, è una sua capacità. Ah, ok. Vabbè. Non specifica quanto duri. Sì, te lo specifico io. No. Cioè, secondo me. Hai fatto la puttana. No, perché sennò adesso dovrei dire. Beh, certo, gliel'ho ridato perché non avrei dovuto, è suo. Altrimenti avrei detto mi ha fottuto, cioè, me l'ha chiesto così gentilmente. Esatto, non mi capisco. Sembrava aversi. Ma cosa avete contro di lui? Mamma mia, ma che cosa? Vabbè, povero strada. Non è carino offendere i miei amici, eh? Non è che i tuoi sono migliori. Mi erano cercato di uccidere nessuno di voi ancora. No, vero? Ah no, dura 24 ore. Ok, quindi è andato. Sì, mi ha ammaliato in qualche modo e gliel'ho ridato mentre tu eri a terra sulla collina. Maledetto demonio. E poi quali altri oggetti hai visto? Garro. Io lo specifico. Il medaglione sacro che avevo recuperato di Bacta. E questo come ce l'ha? Chi può saperlo? Beh, me l'aveva preso Byrne in custodia. Quindi forse Byrne l'ha. O in qualche modo forse cioè no, io chiaramente lo so il mio chi può saperlo. E vabbè, tu dici chi può sapere, io dico beh, Byrne probabilmente è stato ammaliato come me ed è stato obbligato a ridargli. Pure peggio. Pure peggio. E il terzo oggetto? Ma non l'ho ben visto bene. Vabbè, ora non si fanno diritti tra giocatori, però questo sarebbe il caso di fare un però un sembrava una sorta di bambola. E cioè, tipo la tua, tipo, sì, tipo Annabelle. Vabbè, lo stiamo a utilizzare. Annabelle, non ha importanza. Allora, no, quindi, Annabelle, quella del film. Quello cazzo, Vabbè, si chiamava Isabel. Dai, mi offende molto che tu non ricordi il nome della mia bambola. Era la tua bambola? Non so, non l'ho vista bene. Vabbè, dove può essere? Era scusa, la tua bambola dov'è? Io lo fai il concerto perché no, perché Rittavio allora ci ha spiegato che loro devono dare un oggetto a cui te, sì, ma non lo sappiamo, no, ma lo sapete che è andato. Vabbè, sì, uguale dai, che hai dato la bambola, situazione molto sinistra, andiamo a cercare la batte. Sì, sapete anche che ho dato la bambola, l'ho detto. Okay. Vabbè, intanto no. Vabbè, intanto mi dispiace dirlo, ma ha avuto quasi senso essere venuti qua. No! Faccia di merda! Ingiustamente, posso aggiungere. Ma quella è colpa di Kat. Vai, dai, andiamo a cercare la batte però. Okay. Cioè, qua abbiamo esplorato tutto, no? Ci sono altre due stanze. Vabbè, esploriamo le altre due stanze. No, le altre stanze non la nursery e l'obitorio. Ah, gratto un po' della superficie del tavolo, lo lascerei lì. Allora, io dico, seriamente, il mio personaggio dice: ragazzi, comincia a essere un po' inquietante, andiamo via da qui. Cioè, io voglio andare. Gratto un po' della superficie del tavolo, me la prendo dietro. Cioè, non è paura, ma voglio andare. Dai, andiamo a cercare la batte dall'altro lato. L'obitorio lo vogliamo vedere? No, cioè, io mi impongo, voglio uscire. Okay. Boh, sì, possiamo vedere. Non so, sicuramente vediamo qualcosa di particolare. Forse è meglio vederlo. Dai, beh, ormai siamo qua. No, è meglio vederlo. Sono due stanze, una di fianco all'altra. Ci può aiutare a capire alcune cose, forse. Va bene, faccio un tiro sulla volontà. Qua però siamo molte guardie quando entriamo nell'obitorio. Allora, se sappiamo che è l'obitorio. Una stanzina. Vabbè, ok, però. Faccio un tiro sulla volontà. Dei corpi di faccio 6. Ho una paura fottuta. Nella nursery, cuor di leone, tipo, cazzo, ci sta qui. Quando l'aprite, vedete riflessa nella finestra di vetro una suora in abiti bianchi che sta sulla soglia. E poi quando ci riguardate, dai, andiamo via. Cioè, poi invece, se entrate nel dobitorio, boh, brucierei tutto. C'è così, anch'io. La stanza è vuota e la finestra aperta sulla soglia della finestra c'è un corvo. Gli sparo. No, ma come? Qui in abitazione non c'è niente. Tira per colpire. E i corvi sono nostri amici. No, sì. Sei appena entrato nell'ordine dei corvi. No, spari al corvo. Vabbè, fermatemi. Ormai ho detto che sparo. Vabbè, vedete che straggo la balestra e la carico. Vabbè, io fermo. Devo tirare l'iniziativa, ma sarà sui piedi su di te. Garrosh ti dice fermo, cosa fai? Ah, dico di fermo, gli metto una mano sulle braccia e gli dico fermo, può essere nostro amico. Anzi, è nostro amico probabilmente. Lo scopriremo subito. Vabbè, nel frattempo punto la balestra ma non sparo. Mi metto fra lui il corvo. Perché l'ho detto? Mi metto fra lui il corvo e continuo a insistere. Anzi, dico al corvo, facci capire se sei dalla nostra parte. Gli faccio. Sì. Non è divertente. No, non è divertente. Gli faccio vedere la piuma. La piuma. Vabbè, ho capito, ti sparo. Avvicino. Vabbè, dai, cazzo. Vai, girati verso di lui. Vabbè, rimango a proteggerlo, però continuo a parlare al corvo e gli dico fai. Cioè, se ti avvicini, lui vi vola via e si posa su uno dei spaventapasseri del giardino. Bene. Dai, ti sta invitando ad uscire. Mi affaccio alla finestra e sparo al corvo. Tira per colpire. Rotto il cazzo. Perché? Ma tanto non è. 15. È un corvo è piccolo. Corvo da lontano, c'è una roba da cecchino. Colpito? Eh sì. 15. Ma perché? Non è poco. Ti abbatti sicuro? 5. Muore. Allora, un personaggio che uccide il corvo è maledetto. Sì. Finché è maledetto, il personaggio ha svantaggio a tutti i tiri per colpire. Cazzo. E tutte le probabilità. Oh, grazie. Ti devo dare ragione. Grazie, strano. Hai ragione. Grazie. È stato utile venire qui. Hai ragione. Fantastico. Mi dispiace, caro Vico Fogg, però hai servito bene. Possiamo sempre tentare di risuscitarlo, tanto qua succede un po' di tutto. Vabbè, ormai medizione più, medizione meno. Io gli dico, ma scusa, perché l'hai fatto? Boh, perché no? Come perché no? Sei solo i nostri alleati. Sei appena entrato nell'ordine dei corvi. Poteva, se era una persona che parlava, poteva trasformarsi. No, perché non voleva. A prescindere, sappiamo comunque. Da chi? Siamo noi, siamo tre, noi tre. Ma che senso, che motivo? Cioè, nel senso, vabbè. Non mi fido dei corvi. Cioè, il fatto è che o era un nostro amico o era un normalissimo corvo. Mi fido dei corvi. Non c'è una terza opzione. Esatto. Guarda che... Non ha senso quello che stai dicendo. Ho detto. Dimmi che era un PNG fondamentale, ti prego. Se tu guardi verso metà di questa sessione, ho detto ucciderò tutti i corvi che incontro. Sì, è vero, l'hai detto. Ma con corvi intendi corvi animali o quelli che fanno parte dell'ordine dei corvi? Corvi. Cioè, a quel punto ti dovresti suicidare. Vabbè, possiamo andare a cercare la corvi animali. Ok, andate a cercare la batte. È la cena comunque. Se entrate nella... nell'edificio principale che è una maledetta nome. Fino a quando? Finché non rimuovi maledizioni, ad esempio, che si chiama 13 piedi meno l'aula magna meno dove c'è la tavola lunga, seduto a capotavola c'è il l'abate. Potevamo venire qui da lì. Ah, beh, basta chiedere all'abate. Bastava sfondare il camino come voleva fare. In mano un calice, lo sguardo perso nel vuoto. È stato figo, fai un buco, poi abate, è qui. E sussurra delle parole incomprensibili. Abate. Anche a me. Ma siamo tipo in trance. Anche a te. Abate. Gli parlo. Da che entrate, fate il giro da sopra o da sotto? No, beh, qui dal cortile. Da quella grande, cortile, no? Ok. Sì. Quindi voi entrate dalla porta e... Come al solito, entriamo sempre dalla porta. Sì. E lo vedete. Anche quando non dovremmo. Ah. Soprattutto. 1, 2, 3, 4, 40 piedi da voi. E lui gira lentamente il viso verso di voi, la sua espressione è neutra, diciamo, poker face. E, è ubriaco. No, è completamente... Comunque in realtà è un po' che non facevo il cotico malvagio, dovevo uccidere il corpo. Cioè. Diciamo che il suo sguardo... l'avete visto anche in precedenza, non lascia trasparire emozioni, è come se fosse al di sopra delle preoccupazioni di voi comuni mortali. E si volta verso di voi e vi dice: siete in ritardo. Ha fatto il giro lungo. Cos'è successo qua? Abate. È successo che avete sprecato anni di lavori e preparazioni con la vostra inettitudine. Non so bene queste parole. Cioè, è l'inettitudine di due. Che io sono stato variamente affaccendato diversamente. È stato non lui potevo a fare il sangue comunque. Non abbiamo fatto nulla. Basta. Cioè, io non mi ricordo come si chiama la gente a Vacta grande. Vallacchi, cosa c'è? Vallacchi. No, per il coso, il vestito da sposa. Vallacchi. Sì, adesso non si chiama più Vallacchi. Vactergrad, vabbè. Pare che il suo folle piano lo sia dato buco. Se siamo in ritardo probabilmente ce l'ha perché... Se siamo in ritardo... Beh, è vero però. Se siamo in ritardo ce l'ha probabilmente perché noi abbiamo portato il vestito da sposa in tempo per la notte di strada. No. Sì, vedi, no. Chi l'ha bruciato? No, non sappiamo. Il suo piano sembrava folle sin dall'inizio, Abate, ma cosa è successo esattamente? Proprio. No, è vero, però, adesso, con tutto il rispetto, è giusto. Ma poi gli sembrava un piano geniale, che sfiga. Come, no, cioè. era da pazzi. Mi dispiace, però è nel senso, bisogna anche un po' che qualcuno glielo dica. È successo quello che doveva succedere. quello che è pazzo. Il conte è venuto qui, ha trovato la sua promessa sposa in condizioni inaccettabili e l'ha rifiutata. L'ha percossa. Ma siamo sicuri che il vestito è il problema? No, probabilmente anche col vestito se lo si vuole. Ma no, non lo sapevo. Però lui sarà convinto che è colpa del vestito. Ed è fuggita, lasciando una scia di distruzione che ha liberato i miei poveri bambini. E lei, la bestia, è scappata. E hanno causato distruzione. Ha ragione lui di sparare i rino anche comunque nelle vite di tanti innocenti. C'hai ragione tu a sparare i rino comunque. Tutto questo. Vedi, se avessimo dato la vera Irina Strad, non e sarebbe stato. Non mi avete voluto ascoltare. Dell'Irina finta, cosa ne ha fatto? È scappata, è lei che è scappata liberando. Aveva ragione, questo, sì. Ora, di cioè, io ho già una faccia da questo luogo. Poiché non siete più i benvenuti in questa abbazia. Ma lei per caso sa che fine ha fatto il figlio del borgomastro? E soprattutto perché era così importante? Esatto. Lui si alza lentamente dalla sua sedia. Io ancora la lancia in mano, nel dubbio. Prende il suo calice e così facendo diventa una mazza ferrata di emozioni. Mi piace quel calice. No, aspetta, aspetta. La sua veste cade dalle sue spalle e rivela sulla sua schiena un gigantesco paio d'ali nero. Torniamo all'obitorio, mi piaceva il posto. Fine della 25ª puntata. E che quindi che cos'è? È un angelo caduto. Deva, cioè? È uno dei tipi di angeli che c'è. Il più piccolo, tra l'altro. Per fortuna. Ah, beh, ci ho sempre detto che era malvagio. Sicuramente il tuo posto non è vero. Non c'è cattivo più cattivo di un tecnicamente legale buono. Tecnicamente. Ah, angelo caduto è legale buono. No, lui è un angelo, cioè tecnicamente lui è un deva. Che è caduto e bla bla bla, è flavor. Se è caduto forse. Però è malvagio, dai, uno che fa quelle aberrazioni lì è malvagio. Se le fa in buona fede. Cioè, tecnicamente un deva è legale, buona, è legale. Con tutta buono la buona fede possibile, ridurre un essere bene umano con la faccia, sì, di pazzo, cane. Ma non è convinto di fare la cosa buona. Come tutti i malvagi. Esatto. Anche Hitler era convinto di fare la cosa giusta, ok? Hai visto come l'ha girato tutto? Comunque. Forse è un po' esagerato. Questa sembra un'ottima trama per una serie di Netflix. No, cazzo, adesso dobbiamo giocare a un no gioco in cui Hitler fa l'angelo caduto. Avventura in più sera. Dai, Vezzo, giochiamo a dopo ci parlo. Però lui fa l'uomo cane. Già questo basta. No, già lo faccio qua. No, io devo fare il padre Mac McGee. Ascoltate, quel manuale però è mio. Questo è mio. No, mio. Era qui, mi sa che erano tre qui. Sì. E ci sono tre manuali. Qua c'è uno. Ah! Bravo! È vero Segugio. Vero Segugio. E il Segugio della puntata è Giulio. Bravo Giulio, mi piace quando sei attento. Va bene. Se anche voi avete scoperto dove era la avete vinto la maglietta di Tacco Sedreg. Gli easter egg. Nascondiamo un oggetto in una cosa diversa, ma gli puntate. Dove era la tazza di Tacco Sedreg? Product placement, c'è tutto. Che figli hanno fatto le patatine? Quello è facile. Bra. Un find Waldo. Con, non so, la nostra vita. Con grazie manuale mio. C'erano tre manuali. Grazie per averci seguito. E se nel podcast. Se anche voi pensate che Iter sia solo un povero angelo caduto, scriveteci. Commentate 8-8. 1-4-8-8. Ah, ragazzi, mi raccomando, state bene. E alle prossime puntate con Tycoon and Dragon, 3GDR e la maledizione di Katta, presumibilmente su questi canali. Presumibilmente lunedì prossimo. Sì, sì, lo vedo perché no. Per il momento. Presumibilmente con guest star. Non è in mese sabato. Però sempre in giro per me. No, forse detto che la prossima potrebbe essere. Certo, quello dopo è il però quanto fatto bene reintrodurre. Quantomeno a preparare drink. Tra l'altro è una puntata perfetta perché non ci sia. Sono un genio, lo so. In realtà non lo so. Cioè dipende se moriamo tutti contro l'angelo. Dopo forse vuole fare tutti insieme dei personaggi. Allora. Ancora, basta! L'ho fatto solo una volta. Allora facciamo un parlare, dai. Ci sta. Sono folle piano, vate, perché è folle. Folle piano. Non stavamo giocando. Con rispetto parlando. Con rispetto parlando ho detto un pazzo furioso. Andrebbe rinchiuso. Stavamo cercando alleati. Rinchiuso, i belgi dovrebbero essere liberi, anzi sono di confronto a lei. Persuasion. Sì, ha ragione, sta andando a liberarli tutti. Va bene. Ciao a tutti e alle prossime puntate con Tycoons and Dragons. Ciao.